Once again, you've fallen for one of my classic pranks. Bazinga. Bazinga. Whee! Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Oh, yeah. Whee! Bazinga. Bazinga. Once again, you've fallen for one of my classic pranks. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Bazinga. Oh, ci sta, però. Aspetta, mi sento un ritorno in gu. No, piccio, abbiamo cominciato malì. Intanto, buonasera, benvenuti a tutti i nostri radioascoltatori. Ancora una volta, ben ritrovati su Bazinga e su Radio Sisma. Questa sera abbiamo una sorpresa. Appena finisce questa campana, rompi pelotas. Aspetta, un secondo, perché questo qui dovrebbe essere il settimo, otto e forse nove. Quindi. 9. Ah, perfetto, perfetto. Ho visto la campana, ha finito. Quindi passiamo a presentare gli ospiti studio. Intanto, dopo avervi salutato, a te la parola, Gabriele. Chi abbiamo in studio oggi? Abbiamo in studio i Citarellas. Che sono ovvero, ovvero una parte del nostro gruppo. Abbiamo un gruppo con grandi doti canore. Sarebbe a dire che diciamo, i partecipanti di questo gruppo sono delle persone che abitano tutti sotto lo stesso tetto. E diciamo che mantengono un rapporto di amicizia e, al di là della vita universitaria a Palermo. Quindi tutti nel nostro appartamento. Manca solo una persona che non c'è, non è potuto venire o ma se probabilmente avvicinerà, probabilmente speriamo davvero. Arriverà. È una presenza inquietante, ecco, qui con noi, una presenza qui inquietante. Ladies and gentlemen, qui abbiamo Salvo Tumbarello. Che fai un saluto, Salvatore. Buonasera, ragazzi, buonasera. E Marco Fornic. Marco buonasera, Fornic. Buonasera a tutti. Per Marco abbiamo sempre un sed trombone perché si è presentato male. Che cos'è stato, Biccio? C'è qualcuno che fischia o sono, non lo so. Ci sono delle persone che gridano qui sotto. Qui sotto. Speriamo che non stiano morendo, insomma, non voglio essere testimone di un omicidio. Ricordiamo che a Santa Margherita di Belice è la festa del Santissimo Crocifisso. Sì, funziona, devi parlare più vicino al bocca, si sente. Okay. Buonasera a tutti, ripeto. Hai visto, c'è Marco, ha risalutato Marco. Devi tenerlo in modo più sexy, come okay. Più porno, lo so che tu sei mascolino e virile, però devi pensare fossi una come se fossi una ragazza e tenere questo microfono. Diciamo, come se amassi la persona di cui il microfono è. Benissimo, benissimo. Intanto, questo, la cosa simpatica di questa sera è che abbiamo invitato tantissime volte i nostri coinquilini, i Citarellas, due dei cinque Citarellas, li abbiamo invitati in studio tante volte, ma purtroppo ovviamente per la distanza, perché loro abitano con noi a Palermo, ma sono di un comune del Trapanese, Marsala. Molti di voi lo conoscono come Brindisi, stiamo dicendo, scusatemi, come Bevanda. Invece Marsala è un paese e qua ci sono due testimoni che posso affermarlo, Salvatore? Non di Geova, testimoni di Marsala. testimoni di Marsala. Questa sera abbiamo in studio due testimoni noi di Marsala. Noi possiamo offrire come testimonianze mare e tante altre cose, ma venendo qua ho notato soprattutto nella strada facendo il passaggio tra mille province, questa strada. Sì, è una cosa simpatica perché da Salaparuta arrivare fino a Santa Margherita tu tagli tre province, Trapani, Palermo ed Agrigento. Quindi il vostro navigatore si è sballato, immagino, vero Vicio? Detto attenzione, troppe province, autodistruzione tra 3, 2, 1. Il nostro navigatore ci ha portato. Fare una strada. Ammalestrate. Per chi ci ascolta la conosce, è Contrada Covello. Già si stanno facendo una risata perché Contrada Covello è una delle strade più brutte che esista nell'universo. Potete anche cercarla su internet, Contrada Covello. Ed è al secondo posto. Prima c'è il fiume, quello dell'inferno, come si chiama, e poi c'è Contrada Covello. Secondo posto nelle cose tutto più distrutte. Distrutto proprio davvero, una cosa male, come direbbe Marco Fornici imitando noi. Malissimo, malissimo, una cosa malissimo. Benissimo ragazzi, quindi ben sintonizzati. Vedo che già state cominciando ad ascoltarci sempre di più. Ora il contatore è sceso, non so perché. Forse perché ho detto Covello, non è una parolaccia, perciò tipo potete testimoni di Geova. Forse ho pensato testimoni di Geova. Hai detto testimoni di Geova, non dovevi dirlo, compa. Qualcuno si sarà offeso, immagino, Salvatore. No, scusatemi. Cosa hai da dire in tua discolpa, compa? Ora, abbiamo detto che doveva venire Calogero. Noi aspettando che il Calogero viene, gli facciamo, diciamo, un po' di, come si dice, tribute. Sì, gli facciamo una tribute bank band. Abbiamo la banca. Cioè, di questi tempi di Calogero, facciamo questo pezzo che è l'unica canzone che Calogero sa fare nel mondo. Buon ascolto, ragazzi. Bentornati in studio. Ben ritrovati. Qualcuno mi potrebbe, diciamo, Gabriele, basta un pochettino, questo qui è potentissimo. Qualcuno potrebbe criticare che abbiamo cominciato con un pezzo particolarmente pesante. E ho visto l'indicatore di ascolto abbassarsi di botto quando abbiamo, diciamo, mandato questo pezzo. Ma era un tributo dovuto a un nostro amico che ancora non è arrivato. Speriamo davvero che arrivi. Monica su Twitter ci scrive: ma Calogero quello che conosco io? Sì, è il Calogero che conosci tu. Quindi questa sera sarà una puntata imperdibile. Anche perché noi siamo i Citarrellas. Dobbiamo lanciare un nostro nuovo pezzo che abbiamo scritto. Senza Calogero il pezzo non si fa e salterà, slitterà la prossima volta. Quindi speriamo che Calogero sopraggiunga per il bene di tutti noi. Avete sentito pure un errore di Windows? Non so per quale oscuro motivo. La famosa notifica. Tra l'altro è simpaticissimo che questa sera non mi era neanche partito il programma per la radio, picciò. Quindi c'è qualcuno di voi che porta sfiga. Secondo te chi è che quando porta è che sfiga? Non ti è partito? Ah, all'inizio. Marco, secondo te chi è che porta sfiga? Carlo. Salvatore. Carlo. È sicuramente Carlo, il nostro ex coinquilino. Un grandissimo figlio. No, vabbè, parolacce radio. No, però ti stavo dicendo, la cosa simpatica di Carlo, noi lo ricordiamo sempre per un episodio meraviglioso. Carlo è un ragazzo molto religioso, è una cosa simpaticissima che è successa, che lui aveva una connessione a scrocco, e il nostro qui amico Salvatore che ci racconta cosa è successo quando si è entrato nella sua stanza una volta, compa. No, l'ho solamente sorpreso con le mani sotto l'accappatoio, perché nemmeno dal bagno alla sua stanza già doveva lavorare, lui non aveva tempo da perdere. Pensate addirittura che la stanza adesso è la mia, quindi... Quindi non si sa dove cammini, quindi stai attento, sì. Abbiamo bruciato la scrivania. La più bianca della casa. Io, scusate ragazzi, vorrei salutare, certo, i miei amici che ci ascoltano da molto lontano. Da molto lontano sarebbe dove? Bologna, non è tanto. Ah, hai visto? Già abbiamo Bologna. Abbiamo avuto ospiti di New York. Abbiamo avuto ospiti in radio fatto solo via telefono. Quindi, Gabriele, non farti ganzo perché non dai, è così. Dai, sono sempre ospiti. Gli ospiti più lontani qua chi è stato? Cioè, no, quelle americane non sono venute, quindi non vale. Chi è Pietro Ciaccio, americano. Pietro Ciaccio di New York. Cioè, però, sì, mi allontano il microfono. Però la nostra più bella ascoltatrice. Chiego, ma c'è un'ascoltatrice, compa, che ne tu la conosci. Una in particolare. Devi salutarla, Salvo. Salvo e Marco, fategli un saluto a in rima, occhi, compa. Che sono due lampioni a guardarla. Lampioni. Lampioni perché ti acciechi. No, è il taglio particolare. Chi è, come si chiama, compa, questa ragazza? Ma ha un nome particolare, è questo pure che è particolare pure per questo, vai a vedere tu. Non cioè, è una ragazza. Ma lei sarebbe particolare allo stesso modo, anche se avesse il nome, diciamo, come si... No, ma tutto fa sostanza. Tutto fa sostanza. Le spezie servono per questo, sono poche in proporzione materialmente rispetto a tutto il resto. No, quindi piuttosto che dilungarci sulla una disquisizione neuronale contorta inutile sulle spezie, facciamo nome e cognome. Santina Palumbo, aggiungetela su Facebook perché è single. Ricordo sempre questa cosa perché Santina, dai, devi dirlo. Devi Santina, dire, gridare, Santina, come la chiami tu, compa? Da qua, lo devi gridare, Salvo, ora che come ci la sei. Chiamo Santina. Santina. Santina. No, compa, quella là, Santina. Lunghissima, no, è una cosa romanticissima. Non la mettiamo in imbarazzo. Non la mettiamo in imbarazzo, anche perché la settimana scorsa abbiamo trovato un ragazzo, questa settimana invece, insomma, ti accontenti di un saluto? Sì, si sono sposati loro due. Poi volevo salutare un grandissimo amico, Bartolo amico, sempre questo gioco di parole stupido, Bartolo amico, un mio amico. Bartolo, che... domani ce la offri la birra, che fa? Che domani si è ripromesso. Dopo domani, sabato domani. Aspetta, Bartolo, tu dove sei? A Milano? A Milano, non è a Torino. Allora domani. Domani, sei una persona confusa. Santina dice ciao. È proprio questa la risata di Santina, conoscendola. Sicuramente, ma di a Gabriella che ci ascolta anche lei. Ah, è vero, Santina, telefona a Gabriella. Graziella. Telefona a Graziella e dice che ci ascolta perché sennò noi piangiamo e questa notte non possiamo dormire. Per chi non lo sapesse, queste due ragazze abitano al piano superiore al nostro. Quindi stiamo facendo una telenovelas. Una telenovelas di via Citarrella numero 4. Citarrella. E poi c'è qui David qualcosa, uno dei nostri più grandi ascoltatori, e dice: sera ragazzi, sera a te, compa, grazie mille per esserci anche questa sera. Grazie. Inoltre volevo dire una cosa, Vicciotti, mi dispiace, cioè mi faccio le scuse in primis per la settimana scorsa, che avevamo detto che andavamo in onda, poi è successo che i comizi si sono prolungati, diciamo, oltre il previsto, insomma, e purtroppo abbiamo dovuto... che cosa vuol dire? Non è questo, va bene, niente. Mi è arrivato un messaggio, ma non c'entrava nulla. Stavo dicendo, i comizi sono dilungati. Quindi il Marsala, quindi lo Zibibbo. Lo Zibibbo, sì, abbiamo Zibibbo pronto. Quindi, ragazzi, visto che i ragazzi di Marsala mi hanno portato lo Zibibbo, io sto parlando da due ore e ho la bocca secca. E parli solo tu, sempre solo tu. Sì. Vi sparo una canzone, così beviamo Zibibbo e poi rientriamo in studio per parlare degli argomenti che ci siamo preparati. Bacio a tutte le signorine. Prima poi lo toglierò di me. Piccio, siamo un po' disorganizzati perché c'ho il ritorno in cuffia fastidiosissimo. Allora, Vincenzo, dilla la verità, noi stavamo brindando. Stavamo brindando e Citer Rellas, la canzone di sotto è partita senza volerlo, insomma. Salutiamo Amy che ci sta ascoltando. Ciao Amy. E poi volevo salutare anche Silvia Di Giovanna che dice che i nostri ospiti studio sono buoni, quindi aggiungili su Facebook. Silvia Di Giovanna, che tra l'altro io faccio la pubblicità e lei parla con mio fratello, tipo non mi caga su Facebook. Esattamente, sei una bella ragazza cattiva. Allora, Silvia, c'era Marco che doveva fare dei saluti. Sentiamo Marco. Allora, facciamo i saluti come si deve. Come si deve. Con gli applausi sotto. Aspetta, oh, addirittura con le campane sotto. Applausi del palazzo e campane, compa, voglio dire. E con Super Quark pure. Vai, Marco. Voglio salutare intanto Sebastiano Falco, che è il mio ex discepolo musicale. Io gli ho fatto da maestro. Oh, compa, non sapevo. Non sapevo che tu fossi maestro di musica, compa, non lo sapevo. No, come gusti, come ascolto. Ah, maestro, diciamo, a livello così, tipo, conoscitivo. Sì, sì. Esatto. Anche perché tu hai una grandissima cultura musicale, compa. Tu sei il mio jukebox. Fammi finire i saluti e poi ne parliamo. Sì. Poi devo salutare a Pietro Cavasino. Ciao Pietro. Ciao e Pietro, soprattutto Cavasino. A Valerio Ferragane, che ieri ha fatto gli anni, auguri. Oh, auguri! Ancora un applauso a Pietro Ferragane. Valerio. Ha detto, facciamo gli auguri a Cristina Ferragane, che non ha capito il nome. Ha detto, cosa Ferragane? Questa sera non so se vi siete accorti, ma sono abbastanza confuso. Poco. Quindi sì, non sei più abituato ad avere quattro persone. Sì, siamo stati in solitario. Ho parlato sempre io, quindi la smetto per un pochettino. Vi lascio la radio a voi. Io me ne vado. Buona serata, ragazzi. Ciao, Vincenzo. Ciao, Vincenzo. Allora, dove eravamo rimasti? Che parlavamo dei miei gusti musicali. Che sì. Ah, già. Compa, che è una cosa. Vedi, parlo di nuovo, compa. È una cosa romantica. Vai, fatto che ogni volta che a me viene in mente un pezzo, ti dico, Marco, ma quello che il pezzo è fatto? Tu subito, esatto. Degli Who è nel 1870. Sembri l'uomo gatto, compa. Nel 1800 non c'erano le canzoni degli Who. Che pignolo. Vabbè, un pallocchio, io me ne vado. Questa sera siete cattivi con me. E io vi metto un mare di jingle sopra senza senso. Va bene. Allora, stavamo parlando del fatto che Marco ha questa grande cultura musicale. Come mai, Marco? Ci stava, dai. Non ne ho davvero idea. No, l'importante, guarda, che non dobbiamo cominciare argomenti stupidi. Perché ovviamente, tra l'altro, non ce ne usciamo, vi dico, ragazzi. Perché una volta che si imbocca un argomento stupido, quando non era, riusciamo ad arrivarne. Quando era piccolo, praticamente l'hanno messo su una culla di 45 giri. Tipo, piena di 45 giri. E quindi lui ha avuto questa ispirazione, sì, diciamo, sì, trasmessa tramite vinile. Intanto c'è Salvatore che ha finito il primo bicchiere quasi. C'è Salvatore, ancora noi non abbiamo bevuto, non abbiamo brindato. Quindi abbiamo fatto un brindisi, è partita la canzone, siamo confusissimi. Ah, dobbiamo fare altri saluti, ragazzi. Mi sono arrivate. Sono in sessa. Vito Giannini, volevo salutarlo. E poi volevo salutare Silvia Di Giovanna, già l'ho salutata prima. E anche Vincenzo Schifano, che ci sta ascoltando. David qualcosa che l'ho detto pure poco fa. Tu non ascolti, poi dici che parlo solo io. Tu non mi ascolti. E cosa, capito? Io non sono la tua troia. Perché questa è una citazione da Misfits, che è un'altra grandissima. Ragazzi, stiamo prendendo troppi argomenti contemporaneamente. Davvero, Gabriele, non siamo più abituati ad avere grande numero di ospiti studio e ci confondiamo. Quindi, ragazzi, io adesso leggo quello che ho qua sotto e vediamo se Marco mi sai dire qualche canzone di Quentin Tarantino, dei film di Quentin Tarantino, compa. Sottofondo, compa. Tu le sai tutte. Dai, dillo, compa. No, compa, non ho mai guardato un film. 18, accetta. Mai guardato. No, ma che rimandato. Io non ti darei mai la materia musica con questa, compa. Anche perché hai detto una bestemmia gigante. Vabbè, non ho mai visto Pulp Fiction. Cerca Quentin Tarantino. Dobbiamo parlare di Quentin Tarantino. Ti ricordi l'altra volta? Ho visto un pezzo di Kill Bill. Hai visto un pezzo di Kill Bill, compa. Non vale come cultura. Quindi mi stai deludendo, compa. Non so, fateci sapere, cari amici radioascoltatori, se voi avete mai visto film di Quentin Tarantino e qual è il miglior film secondo voi di Quentin Tarantino. Naturalmente non si può. Ah, secondo me, guarda, Pulp Fiction è uno dei migliori, senz'altro. Sì, quello sì, dice un nostro amico. Quello sì, sì, Pulp Fiction è più contorto degli altri. Tu, Salvo, ne hai, compa, ne conosci i film di Tarantino, ma tipo Kill Bill. No, io come film proprio zero, non mi piace stare fermo solitamente. Cerco di sempre stare attivo. Quindi niente film. Salvatore è un ragazzo che va correndo la mattina alla sera a casa nostra. Perché l'unico monitor che guarda è quello della Nintendo Wii mentre gioca. Perché esatto. Non può stare fermo. Con Just Dance. Just Dance 3. Cioè, Salvatore, ogni tanto io sono entrato nella sua stanza di Salvatore, mi apresti l'acqua, tipo cose qua. Sono entrato nella sua stanza ed era in perizoma che ballava Just Dance, una canzone di Rihanna. Una canzone di Madonna, magari. Che schifo, certo. Non so se i vostri coinquilini hanno queste strane usanze. Fateci sapere usanze strane dei coinquilini. Mentre Gabriele ha pescato la bellissima voce su Quentin Tarantino per farci conoscere chi è e di che cosa stiamo parlando. Quentin Tarantino, Quentin Geronimo Tarantino, abbreviato in Quarantino, nato a Cockville nel Tennessee nel 1963, ovvero l'anno della morte di quell'irlandese cattolico del cazzo, è un fottuto regista, sceneggiatore e soggettista, chiaro? E anche un cazzutissimo attore cinematografico, è fottutamente famoso per i suoi film del cazzo, come Cani Preservati, Pulp Fiction, Grill Bill, Un Pezzo di Sin City, Il Death Proof. Sì, esatto, quel cazzo di lungometraggio che è pieno di fottuti omaggi a quei merdosi film degli anni 70. Sì, sì, amico, ha vinto un premio Oscar e una Palma d'Oro al Festival di Cannes, grazie a quel gran pezzo di film che è Pulp Fiction, dove recitano quel frocetto che ballava in Grease e quell'altro negrone che dice sempre figlio di puttana, quello lì, insomma. Riguardo a questi merdosi premi del cazzo, Quentin Tarantino ha detto alle premiazioni degli Oscar le seguenti puttanate. Insomma, cosa cazzo me ne faccio di un fottutissimo Oscar per la migliore sceneggiatura originale? Cazzo, amici, voi non avete mai visto sicuramente il mio film. È un'innovazione, una fottuta innovazione. Sette nomination e mi becco questo pseudo Oscar, figlio di puttana. Il mio cinema o si ama o si odia. Oh, porca puttana, questa cazzata la dovevo sparare al Festival di Cannes, non a voi stronzi dell'Academy Award, porca troia. Bravo. Mi stavo ammazzando perché... Fondamentalmente, se voi avete mai visto un film di Quentin Tarantino, diciamo che il volume di parolacce è davvero... è sempre così, di questo genere. È davvero paragonabile a questo, picciò. Tarantino usa parecchio le parolacce per attirare la gente sporcacciona come noi. Quindi... Infatti, se tu vai a... avete presente la pasta alla Tarantino, no? Sì. Quattro salti in padella, il preparato del pasta alla Tarantino, c'è scritto fottutissimamente buona. Esatto. Ci stava. Era da parecchio che non lo mettevo, ma adesso te lo meritavi tutto, te lo meritavi tutto. Ragazzi, stiamo parlando da troppo. Abbiamo già mandato una canzone dei Pancras poco fa, e allora mando quest'altra canzone che parla del fatto che sono solo canzoni, picciò. Dopo aver mandato due pezzi inglesi, mandiamo un pezzo italianissimo che fa molto piacere anche al nostro amico Calogero, che aspettiamo con ansia. E nei sogni di bambino la chitarra era una spada, chi non ci credeva era un pirata. E la voglia di cantare, e la voglia di volare, forse mi è venuta proprio allora. Forse è stata una pazzia, però è l'unica maniera di dire sempre quello che mi va. Non potrò mai diventare direttore generale delle poste o delle ferrovie. Non potrò mai far carriera nel giornale della sera, anche perché finirei in galera. Mai nessuno mi darà il suo voto per parlare o per decidere del suo futuro. Mia categoria, tutta gente poco seria, di cui non ci si può fidare. Guarda invece che scienziati, che dottori, che avvocati, che folla di ministri e deputati. Pensa che in questo momento, proprio mentre io sto cantando, stanno seriamente lavorando. Per i dubbi e le domande che ti assillano la mente, vada loro. non ne ho. Io faccio solo rock and roll. Se vi conviene, bene. Io più di tanto non posso fare. Gli impressari di partito mi hanno fatto un altro invito e hanno detto che finisce male. Se non vado pure io al raduno generale della grande festa nazionale. Hanno detto che non posso rifiutarmi proprio adesso, che anche a loro devo il mio successo. Che son pazzo ed incosciente, sono un irriconoscente, un sovversivo, un mezzo criminale. Ma che ci volete fare? Non vi sembrerò normale. Quando io... Ma è l'istinto che mi fa volare. Non c'è gioco né finzione, perché l'unica illusione è quella della realtà, della ragione. Però a quelli in malafede, sempre a caccia delle streghe, dico no, non è una cosa seria. E così è se vi pare, ma lasciatemi sfogare, non mettetemi alle strette, o con quanto fiato in gola, vi urlerò, non c'è paura, ma che politica, che cultura, sono solo canzonette, non mettetemi alle strette, sono solo canzonette. Quando gli si irrita la cappella, nebulizza. Tanto un verde agisce dove serve e lascia in bocca la freschezza. Ciao, Bocchinara! Bocchinara! Con tanto un verde, siamo tutti bocchinari. È un medicinale, leggere attentamente il foglio illustrativo. Come avete appena notato, è la prima volta che mettiamo la pubblicità in radio. Ce l'abbiamo, ce l'abbiamo anche noi. Ci ha contattato la ditta Tantum Verde per mandare questo spot simpaticissimo. Per tutte quelle ragazze che hanno un po' la gola profonda e vogliono nebulizzare, questo è Tantum Verde. Tantum Verde, insomma. Dobbiamo ringraziare chi li fa questi video. La fa tra l'altro Marco, compa, quindi li fai tu, vero Marco? C'è scritto Marco, l'utente di YouTube si chiama Marco 1990. Ah no, quindi sei tu, è Marco che fa questi video, quindi ringraziatelo, è simpaticissimo. Insomma, poi volevo salutare anche Giusy, mia, che ci ascolta. Avete capito chi è Giusy? Voi la conoscete tutti. Ciao Giusy. Quelli con i capelli rossi, giù, correggimi se sbaglio, ma tu li hai cambiati. Hai cambiato il colore, no i capelli, hai cambiato il colore dei capelli di recente o sbaglio. Insomma, già abbiamo una risposta al sondaggio, il nostro amico Dario Ciaccio, che pure voi conoscete, cioè, fateci un saluto pure a Dariuzzo. Ciao Dariuzzo. Hai visto. Ti devo dire una cosa: se avessi avuto i soldi extra, sarei andato anche io con i ragazzi, sarei venuto lì a fare un casino. Compa, spettacolare. C'avevi pure un Salvatore nella stanza. Era compa, così un normiamo. Mancavo solo io. Esattamente. Insomma, ragazzi, allora Dario mi ha detto che per lui il film più bello di Quentin Tarantino è Four Rooms. Mai visto. Io nemmeno. E poi ho detto, ma che minchia. Io ho detto esattamente. Lui mi ha detto, Bazinga. Dice un film di Tarantino. E mi faccio avrei scommesso che non l'hai capito. Io non lo conoscevo. Probabilmente uno di quei primi film che ha fatto. Ah, scusate il ritardo, anche Giovo da Palermo ci ascolta. Quindi ciao Giovo, benvenuto a quest'altra serata di Bazinga. Benvenuto, cioè sarebbe benvenuto bene, quindi a Bazinga. Quindi ragazzi, parlavamo di Quentin Tarantino. Siamo fermi, Gabriele mi fa notare all'indicatore degli ascolti. Va bene, stai tranquillo, non ti preoccupare, cresceranno durante la serata. Stavo dicendo che abbiamo parlato di Quentin Tarantino e io ho stimato tantissimo Quentin Tarantino per le colonne sonore. Per le colonne sonore, Marco, a te piacciono le colonne sonore di Tarantino? Tu mi hai detto che non hai mai visto un film di Tarantino. Lo so, me ne pento. e te ne penti amaramente. Si pente e si duole. Si pente e si però duole. Però magari amaramente. Le canzoni le conosco, quelle della colonna sonora. No, questo è molto. Ah, e c'è anche la canzone più bella che a me piace è Stuck in the Middle with You. Che ce l'ho pure. Quella canzone nel film, tratto dal film Le Iene. In cui c'è Mr. Blonde che sta per tagliare un orecchio a un poliziotto e balla questa canzone Stuck in the Middle with You ed è una cosa bruttissima. E c'è una persona che ci saluta, Alessandro Coppola Tostapane, che è chiamato Tostapane. Vi spieghiamo perché. Ciao Alessandro, compare Salvo, perché si chiama Tostapane? Raccontatelo voi due, decidete chi deve raccontare la storia. Lo raccontiamo insieme, dai. Vai fate un pezzo ciascuno. Vai, inizia. Ma sarebbe cioè voi perché indiche, cioè perché ingiurire una persona col nome Tostapane? Perché ha scambiato il microonde per alla faccia di un elettrodomestico. Che cosa? Questa è radio comunque Bazinga, state dando una trasmissione di sputtanamento in diretta. No. Santina Palumbo. Santina Palumbo. Un ragazzo mi ha mandato un SMS poco fa e mi ha detto: ma è davvero una bellissima ragazza quella in radio. Quindi ci ascoltavano, mi è arrivato un SMS. Scusate, ma se funziona allo stesso modo, a questo punto vorrei anche io propormi alla piazza. Ah, infatti. Salvatore è single, vi ricordiamo. Cercatelo su Facebook. Salvatore Zepecheno Tumbarello. Zepecheno preso da un altro bellissimo film. Era il boss di una favela argentina. Che cos'era Zepecheno? Sì, la città di Dio. Era City of God. Bellissimo. City of God è un film davvero bello. Questo non l'ho mai visto. Me ne pento. Compati, sei una vergogna. Io ti avevo invitato come persona esponente della cultura della nostra casa. La cultura generale. La cultura generale profondissima. Stai sbagliando tutto. Compa. Comunque, non va bene. Comunque come colonna sonora ci suggerisce Amy, nostra cugina, è bella quella di Kill Bill, ovvero il fischiettio di Kill Bill, quella che fa... Il fischiettio non ce l'ho, però ho un'altra, aspetta. Vediamo se riesco a trovarla. Ma Gabriele, basta! Sei un fastidio allucinante. Così fa, no? Sì, lo so. Ti è piaciuta Amy? Fammi sapere se ti è piaciuta. Questa qui è la canzone che dedichiamo a Amy e da adesso in poi non ne puoi domandare più. Ragazzi, guardate che canzone che c'era. Io non la conosco, chi sarà? Guardate che canzone che c'era, coppa. Mr. Domenico's. I was 5 and he was 6. We rode on horses made of sticks. He wore black and I wore white. He would always win the fight. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Seasons came and changed the time. When I grew up, I called him mine. He would always laugh and say, remember when we used to play? Bang, bang, I shot you down. Bang, bang, you hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, I used to shoot you down. Music played and people sang. Just for me, the church bells rang. Now he's gone, I don't know why. And till this day, sometimes I cry. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang, my baby shot me down. Questa è una di quelle tipiche canzoni che fanno cadere volate. Come si suol dire? Richiamano momenti, momenti tristi, compa. Soul. Ma richiamano momenti soul, momenti tristi. Noi aspettiamo con ansia Calogero. Calogero, dovunque tu sei, se stai ascoltando questo messaggio, piangiamo perché non sei qua con noi, compa. Ti vorremmo qua con noi perché sei una vergogna. Calogero Alogeno, per chi lo volesse aggiungere su Twitter, si chiama Kalos Alogeno underscore Alogeno. Aveva, se non aveva Kalos Geros Facebook. Aveva Kalos Geros, però purtroppo ci ha rinunciato. Bartolomeo dice: si cena in compagnia di Bazinga. Che cosa sta succedendo là dentro? Domenico, cosa combini? Cosa stai facendo? Facci sapere. Stai provando ad ascoltare Bazinga da lì, compa? Mi senti, Domè? No, non mi sente probabilmente. Sì? Stai ascoltando? Ah, a posto, compa, va benissimo. No. Allora, dicevo, Bartolomeo dice: si cena in compagnia di Bazinga con Vicchio e Nartista. Grazie, compare. Noi ancora dobbiamo cenare, tra l'altro. Noi, infatti, abbiamo i panini dietro. Infatti, ora vi spariamo una canzone di mille minuti, così noi mangiamo e voi ascoltate. No, ma tra un po', perché siamo appena tornati in studio. Gabriele ci voleva fare sapere qualcosa. Vai, Gabriele. Sì, allora, praticamente volevo dire, oggi sono andato in bagno e praticamente l'ho fatta due volte. L'ho pure pesata. Volete sapere? Che schifo. Ma perché questa sera un totale di 700 grammi. Compa, questa hai visto, Vince, che me ne sono uscito alla grande da questa tua incursione? Sì, così tutta sono una persona che Gabriele voleva farci sapere qualcosa mentre io non avevo nulla di pronto. E questo è quello che vi volevo fare sapere, ragazzi. E quindi è importantissimo per la vostra cultura generale. Ah, un Giovanni Provenzano, che è quello che ho salutato prima, Giovo, mi dice: ma solo ragazzi questa sera. Sì, questa sera, purtroppo sì. Per te, compa, so che sei un grande stimatore, come testimonia Twitter, insomma, perché io, questo ragazzo mi fa, aveva twittato: sono a scienza della formazione. E io sentivo che si teneva un'altra affermazione. Qual era, secondo me, l'altra affermazione, piccio? Uno che twitta: sono a scienza della formazione, manca un... Cerco pilo. No, oppure, ma quanto pilo c'è, probabilmente? Ah, sì. Io gliel'ho scritto e, no, diciamo... No. Che ho non capito, si, non è non così, parla, compa. Non si parla così delle ragazze, potrebbero sentire, non è... No, tra l'altro ci ascoltano, però lui ci faceva notare che in studio non ce n'è, insomma, lo so, compa, vedremo di rimediare. Sì, lo so, ma non è che in studio potrebbe rimediare anche quanto connesso ascoltando noi. No, assolutamente. Dovrebbe uscire, muoversi, andare a telefonare. Quindi, a qualche ragazza e dirle: infatti, usciamo. Non Giova, ascoltate Bazinga. Non ascoltate Bazinga, uscite. Andate a femmine. Uscite fuori, andate a femmine, tanto qua ci siamo noi. Le femmine vanno a maschi uguale. È benissimo. Oppure le femmine vanno a femmine, compa, è pure una cosa abbastanza interessante. Sì, ormai. Io dire. Noi non siamo razzisti o omofobi, quindi va benissimo. Quindi ora, per mangiare qualcosetta, qualcosina, vi sparo questa canzone che ci hanno richiesto. Marco, presenta questa canzone. Allora, questa canzone intanto la dedico ai miei amici di Bologna, a tutti quelli che mi stanno ascoltando, a tutte le persone che mi vogliono bene, perché... Allora anche a me. Oh, sì. Wow. Allora. Si stanno baciando con la lingua. Credo che sia la canzone più bella in assoluto e che mai possa esistere nell'universo. Assolutamente. Ne sono convinto e... E vediamo cosa ne pensano i nostri ascoltatori. Buon Stairway to Heaven. To Heaven. Heaven, scusate. There's a songbird who sings. of our thoughts are misgiven. Bacia! Hai distrutto. Io non mi ero accorto. Non mi ero assolutamente accorto. E state preparando un urlo così fastidioso. E avevo le cuffie e stavo guardando le cose. C'è Tony Bavetta, ragazzi. Ci sta ascoltando Tony. Alla fine anche i fratelli Giglio. E anche fratelli Giglio. E Lele Giglio. Ciao, Piccio. Lele Giglio. Entrambi i fratelli. Sì, tutte e due. Ah, capisco. Ah, capisce, capisce. Salutiamo il nostro nuovo ascoltatore, Gabriele Gebbia. Ciao, si chiama Gabriele. Si chiama come me, Gabriele. Mi ha appena seguito, grazie. Ah, benissimo, benissimo. Ci ascolta. Ah, c'è pure Massimino. Massimino. Massimino, lo stadio di Catania. Di Marsala, oh, e ci ciao, sta Massimo. Ascoltando. Tago c'è, è venuto a trovarci in studio. Minchia. E dice che il microfono fischia. Ah, sono due. Ti fischia il microfono. No, no, poco fa c'è fischiato. È venuto a trovarci in studio due grandi amici, Danielozzo Abruzzo e Peppe Armato. Un applauso, un applauso. Un applauso, aspetta, me lo devi dire prima. Ecco. Come avrete capito, ragazzi, se invitate delle persone di Marsala in studio, ovviamente avrete vino a volontà. Volete fare un saluto, ragazzi? Allegria in quantità. Vai Peppe, c'è il microfono, è tuo. Un saluto? Un saluto. No, lui, no, lui va. Noi Daniele un saluto lo fa. Timidezza. Fai un saluto. Ciao ragazzi, buona serata. Hai visto, visto. Wow, ragazzi, abbiamo ascoltatori anche in studio. Se volete potete venirci a trovare negli studi presso gli studi di Radio Sisma, Palazzo Finanziario. C'è la cosa, la regola però, devi dire, qual è la regola? La regola è che dovete portare una bottiglia di colore verde con un liquido giallo all'interno. Che non sia pipì, che non sia pisciazza, come si suol dire. Ma pensi benzina, no. Un litro. Oh mio Dio. Kira, cioè tutti la vorrebbero un bel bidoncino per fare un bel pieno per ora. No, ragazzi, io dicevo, Gabriele aveva messo questo pezzo. Lo facciamo sentire, che è bellissimo. Ah, lo facciamo sentire dopo la prossima canzone. Dopo la prossima canzone. Vabbè, poi faremo, non lo so. Come e tanto dura un minuto. Come vuoi tu, dai, sentiamolo, sentiamolo. I mari e fiumi attraverserai, turbini e teste io calcherò. Voglio mille cari per accarezzarli. Meravigliosa paura di averti al mondo. All'improvviso tu scendi nel bacio lento. All'improvviso mi bruciano in mezzo al sole. Ancora meravigliosa, sei sonno meravigliosa, di avvento occhi di sole, mi tremano le pare, amore non meraviglioso. Luce dei miei sogni brilla su di te, non svegliarti, non svegliarti. Ancora. Oh mio Dio, è sballato tutto. Quindi ci sono queste certe canzoni che dicono cose che non dovrebbero dire. Come avrete notato, è la una versione dei corti, diciamo, di Elio e le Storie Tese, però rifatta da un ragazzo. Ma sono fidanzato. Sì. Ah, è venuto a trovarci anche in studio finalmente c'è una ragazza. Chi è che poco fa, Giovo, ci chiedeva una ragazza. Adesso abbiamo un componente, esponente del sesso femminile, che è venuto qua per rappresentare, diciamo, quest'altra parte dell'Italia. Perché noi qui, sì, capito? Dai, ma Piccio, perché mi fate dire cagate? Però intervenite, Piccio, se no parlo solo io. Vero, allora. Vai Salvatore, dai. Sì. Salvatore, ti chiedevano poco fa, se non sbaglio, ti chiedevano un discorso molto filosofico profondo. Come solo tu sai fare. Esatto, io ora... Vai, compa. Vuol dire, questa è una cosa, vuol dire che i ragazzi che me l'hanno chiesto mi conoscono in fondo. Lo sanno sì, che cosa vuol dire, certo, che in fondo, proprio nel fondo della bottiglia, scavando ancora più in fondo, forse qualcosa di buono bottiglia. C'è. Compa, ti do questo incipit. Allora, è successo questo. Mark Zuckerberg, non so se voi lo conoscete, è l'inventore di Facebook. Che ha copiato l'idea, eccetera. Ma questo ce ne frega poco. Insomma, Facebook da poco o tra poco sarà quotato in borsa. Quindi potrà guadagnare miliardi di euro più di quelli che, di dollari più di quelli che ha. Marco, tu cosa ne pensi, compa? Dato di questo argomento, fino a qua, compa? Che un ragazzo della nostra età, qualche anno più grande, riesca a sfondare, diventare il più giovane miliardario del mondo. Compa, ci vuole culo. Ci vuole culo, ci vuole questo qui culo. È bellissimo. L'ho sempre però detto. Praticamente, che cosa è successo? È successo che andando a guardare così le notizie oggi, ho letto Mark Zuckerberg criticato dai giornali perché quando è andato a Wall Street era investito in felpa, perché là solitamente sono tutti vestiti. E c'era compa questo articolo e penso sia una vergogna. Quindi Salvatore, ti do questo incipit. Secondo te è importante l'aspetto esteriore e il vestirsi per frequentare un luogo, oppure anche se lui ci va in felpa nessuno gli deve dire niente perché lui è il più giovane miliardario del mondo, compa? Ma io sono dell'opinione che chiunque fa quello che cazzo vuole. La cosa importante non è se ti droghi, se vai a rubare. No, a rubare magari da rubare non è che sia il massimo. Però l'importante è che tu vivi la tua vita senza rompere coglione agli altri. Esatto, questo qui è... Puoi fare tutto, la Bibbia. Tanto se non rompi coglione a nessuno puoi distruggere solo te. Voglio dire, esattamente, sei quindi l'artefice di te stesso. Oba, un applauso di questi qua scioccanti. Gabriele è l'unico che lo fa. Io ti do un piccolo aiuto con lo studio. Grazie ragazzi. Hai visto? C'è lo studio che ti applaude. E io ho pescato una bellissima canzone che vi mando a proposito di Quentin Tarantino, perché è la colonna sonora di un bellissimo film di Quentin Tarantino che è Jackie Brown. Street life, there's a thousand parts to play. Street Ecco, abbiamo deciso di dire basta con la pubblicità dei Crackers. Non è dei Crackers. Quindi... la canzone, la canzone di questa qui è della pubblicità dell'Aperol Spritz. Vabbè, sempre pubblicità. Perché sembra dice Spritz Life. Spritz Life. Che poi è Street Life. Comunque saluto Marco Fornici che mi sta ascoltando da 2 centimetri qui al lato. È vero, mi sta ascoltando in questo momento. Spero che tu possa ricambiare il saluto. Vediamo se tu l'hai sentito. Marco, hai sentito? Sì. Ha sentito? Ah, benissimo. Salutiamo Diamond Looney Marlas che stava facendo il programma prima di noi. Amazing. Ah, ci ascolta. Amazing. Se fosse qui direbbe Bazinga. Bazinga. E poi salutiamo Domenico Alagna, il mio collega che si è connesso adesso. Ragazzi, fermi tutti. C'è un ragazzo dietro di me che deve fare un annuncio importantissimo. Vai Peppe, vieni qua Peppe. Che ci sta ascoltando il destinatario dell'annuncio e devi farlo, vai. Tony, so che mi ascolti, volevo dirti e volevo esprimerti al profondo del mio cuore, Suca. Esattamente. Oh, salutiamo anche un mio amico Dario Maggio. Oh, il Dario più forte Maggio. Giocatore di calcio di Marsala. Sì, wow. Cioè, il più grande credito. Oh, ragazzi, guardate che c'è a voi l'onore di fare il saluto che ci sta ascoltando. Ciccio Genna! Ciccio Genna, ci sta ascoltando. Saluta Ciccio. Shishogen. Piano. Questo sh l'ha fatto Salvatore, se non l'hai capito. Ah, Tony ti ha mandato un cuoricino, compa. Tony ti ha mandato un cuoricino. E Ciccio Gen ha scritto: oh bastardi. Va bene, Ciccio. Va bene, mi dispiace che ce l'hai con noi. Noi ti vogliamo bene in realtà. Avevo pronto questo pezzo. Cos'è, ga? Cosa? Mi hai fatto così? No, è stato lui. Ah, era stato lui, scusami. Dicevo, adesso Tony ha risposto. Tony, ce l'ho qua. Aspetta. Compa, due messaggi. E ha scritto zingari di merda, tra l'altro, compa. Questo qui è rivolto a te, compa. Hai discendenze basche, compa, gitane? beh, i tuoi parenti provengono da una razza gitana, compa. No, non risponde, vabbè, niente, va benissimo lo stesso. Stavo leggendo questo pezzo, vabbè, dicevo, abbiamo parlato la settimana scorsa, due settimane fa, dei messaggi subliminali. Abbiamo sentito poco fa un Fumate. Pezzo. Abbiamo sentito poco fa un pezzo, Stairway to Heaven, che praticamente è stato accolto, diciamo, dalla critica e da quelli della teoria della cospirazione. Se cerca Stairway to Heaven, vedi se lo trovi. Da quelli della teoria della cospirazione, come... Cioè, per sentirlo al contrario. Ah, sì, sì, praticamente sì. Dice qua che ci sono questi pezzi. Ascoltando la canzone al contrario, dice: se c'è trambusto nella tua siepe, non ti allarmare, è solo la pulizia di primavera in onore della regina di maggio. Ci sono due strade per percorrere. Questa qui non mi sembra alquanto satanica, se ascoltata al contrario. Poi c'è questa qui, dice: ecco il mio dolce Satana, la cui unica piccola via non mi renderà triste. Cioè, io ne parlavamo l'altra volta, perché i Queen, si dice che ascoltando Another One Beat the Dust, non so se la conoscete, Bite. Another One Beat Dust. Se la voi ascoltate sto pezzo al contrario, mi sembra che dice: it's fun to smoke marijuana. L'hai mai sentita tu questa storia? No. Sì, ed è, piccio, secondo me è una cretinata colossale. Sì. Cioè, perché una canzone come Stairway to Heaven, vabbè, tu Marco come l'hai definita? La canzone più bella in assoluto. La canzone più bella in assoluto. Esiste. E questo è vero, tra l'altro tipo ce ne sono forse un altro paio tipo all'altezza, tipo Shine on Your Crazy Diamond, oppure The End dei Doors, è pure bellissima. Sì, ma sempre un gradino sotto. Un gradino sotto, qui ci sono due assoli. È il motivetto preferito da ogni strimpellatore di chitarre che si rispetta. Ah, questo in particolare da quelli di infimo livello che pensano di essere diventati come Jimmy Page. Cioè tu. Solo perché riescono a eseguire senza errori l'arpeggio iniziale della canzone, però. Io lo so fare tutto, invece. Tu? Sì, sì. Allora non sei un musicista. Non è venuto Calogero, quindi me la posso... dire che sei il più bravo nel raggio di 100 metri. Sì, sì, il più bravo della chitarra, con la chitarra nel raggio di 100 metri, lo un posso applauso, dire. Un applauso, un applauso. Gabriele è il più bravo con la chitarra nel raggio di 100 metri. Ma qui c'è scritto: il fatto che non riuscirebbero a suonare l'assolo centrale nemmeno a un ritmo di 20 battiti per minuto è marginale per questi newbie del rock. La canzone è la descrizione di un sadomasochista che gode nel farsi 70 piani di scale a piedi nonostante l'ascensore sia funzionante, con in spalle la sua little girl che cerca di suonare il flauto attraverso con scarsa fortuna. Infatti si sente poco, no? Assolutamente sì. Praticamente poi un'altra cosa di Stairway to Heaven, dicevano che praticamente è stata mandata in onda per 24 ore di fila su una stazione radiofonica americana quando si sono separati. Non so se la sapevate questa cosa. Che bella, vicino la campana è meravigliosa. Per chi suona la campana, diceva Hemingway. E noi magari mandiamo un altro pezzo. Marco, quello tuo non mi si carica, quindi compa, aspettiamo. E prima di mandare quello tuo, mandiamo questo qui che è simpaticissimo. E sono i Vampire Weekend con Holiday. E rientriamo col ritorno in studio. Adesso attacco tutti e tre i microfoni. Eccoci qua in studio, ragazzi, bentornati. Che cosa ne pensate di questo pezzo che ho mandato, compa? Simpatico. Simpaticissimo. Insomma, abbiamo avuto... Che cosa diceva? C'era un ragazzo che diceva che Salvatore ha ragione. Chi era? Cosa diceva per il discorso di prima che abbiamo fatto? Ah, ecco uno strimpellato. Aumenta il microfono. Vediamo. Il mio maestro. Si sente benissimo. Questo è per dimostrare che lui sa fare anche oltre il primo arpeggio. E ci doveva essere Calogero qua, piccio. Vabbè, anche lui sa il fatto suo. Non per niente ne cita Redas. Ognuno ha una una peculiarità che lo rende speciale. E per entrare nel gruppo serve questo. Io faccio il sito web per il gruppo. L'unica abilità speciale che ho, oltre a quella di cazzeggiare, del cazzeggio continuo, serve un certo carisma anche per questo. Quindi, ragazzi, chi è che vuole venire a suonare in radio e sfidare Gabriele? Noi aspettiamo con ansia Calogero e speriamo. Senti che bello questo parte. Questa parte è bellissima. Arreara. Sì, sì, no, perché sì. Oh, siamo bene. Ci siamo innamorati. E non hanno nemmeno fatto l'applauso. Dallo studio non mi hanno fatto l'applauso, ragazzi. No, non te l'ho fatto perché non te lo meriti. Ah, me lo fa lui. Te lo fa solo una persona. Quindi, ragazzi, il discorso che avevamo preso prima era questo: di Mark Zuckerberg viene criticato dai media perché era vestito in felpa quando è andato a Wall Street. Credo sia una cosa abbastanza stupida, perché, come diceva Salvatore, ognuno è libero di fare quello che vuole, nessuno si deve giudicare. Soprattutto se hai mille miliardi di dollari, fai quello che vuoi. Ancora di più. Dovresti pensare a magari costruire qualcosa per aiutare anche. Esattamente. Visto che di questi soldi potresti campare anche tre vite. Minimo tre vite. Minimo tre vite, ma proprio da re. Non da persona normale. Lo so. Perché uno nella vita deve guardare sempre avanti. Però c'è anche da guardare chi sta indietro. questo senza dubbio, ma perché poi tra l'altro poi lo fanno anche. Buonasera, buonasera, ciao, Mr. Rosarios. Benvenuto. Buonasera. Pure un bacetto da lontano, ma mi piace quest'uomo. Quindi ragazzi, vi mandiamo un altro pezzo di canzone che ha fatto la storia. E sono i Jefferson Airplane. Questa piace a Sebastiano, questa piace a Sebastiano. Quindi la dedichiamo a Sebastiano. Ciao Sebastiano. Buona serata. Fischiano ancora una volta i microfoni dopo questa meravigliosa canzone. E io vi lascio con una bruttissima canzone invece. Ascoltatela tutti assieme, picciotti, che è bellissima questa qui. Universitessa, studentaria, triste e solitaria, stronzetta, ripassi bene l'aria. E la mattina sulla scrivania e la sera ti ritrovi a fissare il soffitto. I soldi per pagare il soffitto te li manda la tua serenità. Ora c'è la parte più bella. Ricordi la corrida sotto il sole a Roventas, sotto il sole a Roventindia, che crescevano disordinati ai porti dell'estate. Lucertole impazzite, lucertole impastate. Ripensi a quel profumo dolce di sudore sulla fronte, odore di sudore di tua madre. Il tuo ragazzo studia architettura, adesso passa il tempo con il suo amante di un supermercato in centro. Questa vita fatta di senti, venti, prendere un bel cazzo per sentirsi più felici, ma soli senza i tuoi amici. Carmelo sta a Milano, su facoltà di economia. Fabiana e Sara, lettere, indirizzo, archeologia. Poi c'è Concetta, sta puttana. Giurisprudenza invece la fa Ilaria e Marco Spaccia, dando il resto dalla cassa. Universitessa, studentaria, sfiori la tua pancia, dentro c'è una bella novità. La vita non è dentro il bilur di filosofia, e la sera ti ritrovi a pensare. La sera ti ritrovi a pensare. A chi non è capitato di arrivare la sera a pensare, piccio? A voi vi è capitato mai, compa? A pensare. No, a pensare, compa, in romano. A sera te ritrovi a pensare. La cosa più brutta che c'è, quando ti metti a pensare non parli più, diventi muto, ti isoli. Compa, Salvatore, compa, sei l'idolo delle folle questa sera, perché i tuoi discorsi stanno scatenando un putiferio dai vostri amici di Marsala. Sei un filosofo, compa. Questa sera sei poeta, un filosofo, poeta, un poeta maledetto. Direi parlate, invece non devo che devo parlare per forza io, voglio dire. Tu sei perché il boss. Io sto preparando una cosa. Siamo sempre abituati. Come è stato per una sera, è stato sempre il capattaro. Io sono stato il capattaro. Non so se conoscete il gioco della Torre dei Mille Gatti, in cui c'è il capattaro che deve dire la formula magica che dice, inizia il gioco dicendo dalla Torre dei Mille Gatti è scappato il numero della persona e poi il gatto e quella persona difendendosi risponde dicendo il numero della persona gatto non è stato, e lui risponde di nuovo allora chi è stato, e lui risponde ancora dicendo un altro nome e così via. No mi sa che non è il caso, anche perché ho già bevuto abbastanza. Tra l'altro via radio questo gioco sembra una stupidata colossale, perché non so, anche non perché ho bevuto abbastanza già e mi sembra il caso di smettere. Esattamente, meglio che finisci. Io sto cercando un tweet. Io ho detto no all'alcol, fatelo anche voi. Vediamo se riesco a trovarlo. 10 maggio è oggi, no? Se devi bere non guidare. Piace. No, il 10 maggio è ieri. Fa sbloccare, quindi gli piace. Di cosa parli? Dell'alcol? Sì, si trasformano le persone. Compa, com'è l'alcol? Alla fine. Allora, io intanto vorrei sapere una cosa da un mio caro amico. Se quella sera che lui si è messo su uno skate e si è fatto arrivare ha fatto arrivare il suo corpo sullo skate a una velocità di 60 km orari, se non sbaglio, Pietro. 60, non la so sta cosa. 80. E io nemmeno so di cosa si tratta. Comunque se stava bene. Perché cosa ha fatto? Ma si è spappolato la faccia su uno skateboard? No, stava bene, no, ha fatto questa corsa a velocità, ha attaccato a una macchina, gli è piaciuto. Sono spunti di vita che ti rimangono con lo skate. E scommetto che come tante persone ha messo un video su YouTube e l'hanno arrestato, vero Vic? No. Il video su YouTube che io vi posso consigliare, c'è quello a Palermo di un ragazzo che quando c'è stata una grossa alluvione si è messo a fare kite è bellissimo, è una cosa allucinante. Perché, però, diciamo visto che il sistema fognario funziona troppo bene. A Palermo, fantastico. Come tutto a Palermo. La cosa c'è, appunto, la cosa c'è a Palermo. Soprattutto che fidatevi degli autobus, arrivano. Hai voglia. a Palermo 16 anni, ma arrivano. A Palermo noi abbiamo parecchi ascoltatori di Palermo. La cosa brutta che ho notato nella gente, quando gli dici una cosa cattiva della loro città, non è che ti dicono vabbè, si dovrebbe cambiare questo, così e così. Ti dicono vabbè, è Palermo. Cioè, no, lo dicono tutti, compa, dicono vabbè, Palermo. Compa, non ci tentano per niente. Tipo, nel senso, è come se avessero un senso di menefreghismo della loro città. Sì, comunque io penso che rispetto a mettermi a studiare in un altro paese, sento più spirito tipo siciliano, ma quello con cui siamo cresciuti. Sì, sento qualche cosa che comunque ci accomuna. Questo è pure vero. È come ancora quando io vengo qui a trovare voi e mi sento come se fossi a casa. Perché qui comunque trovi un mondo, modo che comunque è, non dico uguale, ma paragonabile a quello si dove può sei cresciuto, a quello in cui crediamo noi, alle cose che ci piacciono. Anche quando sono venuto qui, cioè mi è piaciuto quello che ho visto, che passavo da una strada e non avevo visto mai. Dicevo, boh, è bello, qua vedo. Perché tornando da Palermo verso Marsala, le montagne sono spoglie. Cioè non ci sono i colori che ci sono venendo. Invece qua nella nostra zona, ma anche perché tu devi sapere che la nostra zona è tutta coltivata con baccoso, come si chiama? Fieno, oltre agli ulivi, diciamo. Abbiamo la Sulla. In questo periodo è la Sulla, che è un solo le vigne, sud Sicilia. No, da voi è solo vigne, voi avete tanto Marsala, cioè. Voi fate solo Marsala, è un buonissimo zibibbo, un buonissimo zibibbo. E poi avete Garibaldi, no? Marsala, per chi non lo sapesse, per quelli che ci ascoltano dal nord, è il posto in cui Garibaldi è sbarcato con i Mille e ha cominciato la sua presa dell'Italia. Bellissimo. Io prima di di mandare questa canzone che ci aveva chiesto Marco Forni, ci volevo leggere. Mi dice Picchio Picci, ma perché a Palermo abbiamo gli autobus? No, no, l'ha detto, dice, a te, dice, l'ha, ma detto... perché a Palermo abbiamo gli autobus? È questo il senso, capito? Ah, tu hai una macchina, un bar, probabilmente no, è una, è sarcasmo, Gabriele, mi stai facendo confondere perché stavo mandando tre cose, mi hai bloccato. Quindi intanto salutiamolo, Picchio Picci, Picciotti, un saluto ancora a Picchio Picci. Ciao Picchio Picci. Grazie compari. Gli avviso Picchio, ma avete capito al volo? Anche perché questa qui non è provata. Oh, vedi che siamo svegli noi. Siamo svegli, siamo svegli. Allora, dicevo, riguardo all'argomento di prima, ovvero se è importante l'apparenza, il vestire, il ben vestire, volevo leggere un tweet che ho scritto ieri prima di mandare una canzone che esattissimo, l'avevo cercato anch'io prima. Ed è questo, la gente che punta tutto sullo stile nel 95% dei casi è un contenitore vuoto. Ho conosciuto più straccioni pieni di idee che gente elegante. Detto tutto. Preso con l'ultimo invito di un progetto. Bellissima questa canzone, fantastica. Cioè io davvero mi dispiace, ogni tanto la mia cultura musicale... No, c'era un altro pezzo. No, sta. Bazinga. Bazinga. Mi fa il bazinga. Anche perché voi mi avete detto sta per finire, invece no, c'era un altro. No, c'era un altro, il finale. Dicevo, io mi vergogno perché l'unica canzone, diciamo, che conosco benissimo dei Meganoid, anche se parecchi altri lo ascoltate, è quella Supereroi. Supereroi contro la municipale. E la cosa bellissima è nell'album, non so se avete mai sentito la Ghost Track. No. Era un assolo di basso allucinante che è stata mia suoneria per tutto il tempo del liceo. È stato bellissimo. Questa qui ora poi la mettiamo. Comunque, tu avevi un amico da salutare, Marco, e di raccontare qualcosa. Assolutissimamente. Intanto saluto a Maurizio Russo, che lo conosco da quando ho 5-6 anni, cioè praticamente siamo cresciuti insieme. Ah, hai visto. Vai, gli voglio veramente bene. E volevo raccontare una cosa che gli è successa. Un applauso, anche se non sappiamo di cosa si tratti. Praticamente io non la so benissimo la storia, però più o meno è così. Lui è andato a Roma col treno da Parma o da Bologna, non lo so, per il concertone del 1° maggio. Ah, sì. Quindi ha fatto i biglietti andata e ritorno, l'aveva già pagato, ce l'aveva nel portafoglio. Poi c'è arrivato a Roma, concerto, casino, e gli hanno rubato il portafoglio. No! Col biglietto di ritorno dentro. E i soldi. E i soldi, ovviamente. Oddio. Carta d'identità, tutto. Manco fosse a Palermo. E come ha fatto? Non lo so. A quanto pare è rimasto là. Io poi la storia non lo so di preciso quando è alla fine. So solo che queste cose possono succedere solo a lui. E il ladro gli ha detto, si è girato, gli ha detto Bazinga. È vero, esatto. È un ladro bastardo. Come quando Sheldon vanno in una puntata in una cittadina sperdutissima e gli rubano la valigia. La valigia appena arrivata. Grazie, galantuomo. E gli rubano tre cose. Perché era la città più sicura di tutti gli Stati Uniti. Sì, lui scappava lui. Infatti no. Comunque Maurizio, quando ci sentiamo mi racconterai com'è andato. Come è andato a finire? Perché siamo come curiosi. Sei tornato a casa? Non lo so. Siamo curiosissimi, sapere. Infatti di sapere questo, anche i nostri ascoltatori probabilmente questa notte non ci dormiranno, quindi facci sapere qualcosa. Vai. Sei tornato a casa, se hai trovato lavoro a Roma e sei rimasto lì probabilmente. No, credo sia tornato. Grande Maurizio, vai Maurizio. Maurizio è un grande. Continua a lottare, sopravvivenza. Qui c'è un altro argomento che volevo parlare, di cui tra l'altro ignoro le dinamiche, cioè probabilmente voi ne saprete più di me, è quello che il boss della mala, Provenzano, a quanto pare abbia tentato il suicidio in prigione. Ma sapete questa storia? Secondo me si stava annoiando, voleva vedere come si vede il mondo tramite attraverso un sacchetto di plastica. Oddio, perché vero quel sacchetto che ha fatto? Ha provato a soffocarsi con un sacchetto di plastica in testa. Oddio. E le guardie carcerarie, che lo tengono sott'occhio 24 ore su 24, hanno notato qualcosa di strano tramite le telecamere di sorveglianza. Hanno visto che aveva un sacchetto in testa. Oddio. E cercava di suicidarsi. O giattore. Probabilmente questa è la cosa scioccante, Piccio. Noi magari pensiamo, in prigione hanno vitto alloggio, però deve essere davvero una cosa stressante stare chiuso in 2 metri quadri. Quanto sono le prigioni super giù di grandezza? Al massimo 5 metri quadri. 5, compa. Tu ti immagini? Come un circolo per loro. Ma tu non immagini stare chiuso in 5 metri quadri, compa, 20 ore al giorno. Hai quelle 2 ore di mangiare, compa. Deve essere una cosa terrificante. Io pensavo l'altro giorno, cazzi loro, compa. È quello cazzi loro che sbagliano. Sì, però compa, è una cosa disumana. Tipo, in India, per esempio, il maltratto nei prigionieri, li picchiano, eccetera, ed è legale. Qua magari hanno 5 metri quadri, però è pure lo stesso disumano. L'altro giorno, non so se vi ricordate, a casa avevo preso questa discussione. Avevo scritto: secondo voi, qual è la giusta punizione per punire quelli che con la prigione, secondo voi, non hanno la giusta punizione? Ovvero, che cosa potrebbe esserci? Ignorarli completamente. No, che cosa potrebbe esserci per un, non lo so, un pluriassassino, un serial killer, allora, più dell'ergastolo? Innanzitutto, per i pedofili e i maniaci sessuali, io proporrei la castrazione tramite accetta, senza. A carne viva! Sì, senza previa. Come si dice? Anestesia. La cosa strana è che molte persone una cosa del genere, come si dice? Non sarebbe sbagliata per molte persone una cosa del genere. Perché praticamente molti, diciamo, pensano che forse il carcere è vitto e alloggio pagato, e quindi non è una punizione decente. Però, Piccio, io sinceramente penso che sia davvero pesante. Voglio fare una controdomanda. Va benissimo. Fai finta, supponiamo che tu sia un senza tetto, mm-hmm. Che non avessi neanche i soldi per comprarti da mangiare. Sì. Non ti conviene fare un furto, una rapina, un qualcosa, andare in prigione dove almeno ti danno da mangiare e un tetto sopra la testa? Questo è pure. Io lo farei proprio. Questo è pure vero. Assolutissimamente. Io non so quanto ti puoi ritrovare nei panni di un barbone o di uno che sei in mezzo alla strada. Però se tu ci pensi, non posso nemmeno immaginare cosa possa pensare una persona. Lui ha ragione. Per avere vissuto in una vita totalmente al di fuori di tutto questo. Lui ha ragione, praticamente dice che fondamentalmente, no, non tu, dico Marco, che molti dicono pure di sì, i nostri ascoltatori, qualcuno ha consigliato i lavori forzati per le persone, diciamo, malfamate, o le persone pluri, con pluri e pluri... Stile Misfits, okay, ma no, è peggio, nel senso tipo vai a spalare cacca o vai a rompere legno, vai a spaccare legna, vai a stare con... come Misfits, in Italia non ci sono i lavori forzati, vero? Mi sa di no. Penso di no. Io la pena di morte per me è sbagliata. Nel senso, non la condivido sul serio. Però, come lavori forzati, almeno usi le mani di un serial killer, magari per scopi utili alla comunità, che finora, per esempio, non aveva mai fatto. Non lo so. Voi che ne pensate, piccio? È un'alternativa. È un'alternativa ai lavori forzati. Io volevo salutare Oriana e Nico che ci ascoltano. E poi volevo salutare Maria Grazia Di Matteo. Indovina qui chi abbiamo. Un saluto. Fate un ragazzo a Maria Grazia. Fate un saluto, ragazzi, a Maria Grazia. Ciao Maria Grazia, yeah. Ciao. Ciao Maria Grazia. Salvatore l'ha detto un po' addormentato, però ciao Maria Grazia, benvenuta nello streaming di Radio Sisma. Adesso, ragazzi, io volevo interrompere tutto e mandare una canzone che a Gabriele piace da morire, ma ho perso, quindi non la trovo. Quindi mi stanno addirittura telefonando per la canzone. Eccola qua. Ecco qui la canzone che vi mando. Doveva vincere Sanremo. Di Fabrizio Moro, cantata dove da sei? Noemi. Sono solo parole. Avere l'impressione di restare sempre al punto di partenza e chiudere la porta per lasciare il mondo fuori dalla stanza. Considerare che sei la ragione per cui io vivo. Questo è o non è amore. Cercare un equilibrio che svanisce ogni volta che parliamo e fingersi felici di una vita che non è come vogliamo. E poi lasciare che la nostalgia passi da sola e prenderti le mani e dirti ancora. Sono solo parole, sono solo parole, sono solo parole, le nostre sono solo parole. Sperare che domani arrivi in fretta e che svanisca ogni pensiero. Lasciare che lo scorrere del tempo renda tutto un po' più chiaro. Perché la nostra vita in fondo non è nient'altro che un attimo eterno, un attimo tra me e Ed effettivamente, ragazzi, bentornati in studio. Questa canzone merita davvero. È una figata, direi io. Comunque volevo avvisarvi, cari radioascoltatori, tutti i radioascoltatori, che sta arrivando un ospite d'eccezione, che è Calogero Calandra. Aspettavi l'applauso tu? Sì, sì. No, ho visto cosa stavi facendo. Mi spiego. Perché è il mio maestro di musica, praticamente di chitarra. Probabilmente ci allieterà la serata con un pezzo, qualcosa, insomma. Voodoo Child. Io imparo da lui tutto quello che posso, anche se no, mi rendo conto che non posso imparare veramente tutto quello che lui sa, perché lo fai male. È veramente incredibile. E poi tutto quello che imparo lo insegno a Salvatore, che è qui. Come potete sentire, ci sono anche le campane. Sempre quello. Vanno a tempo. Ragazzi, ascoltate questa questa cosa. Ci sono due opinioni. Voi mi dite. Aspettate. Sì. Ringraziamo Massimo Figlioli perché ha messo mi piace a Bazinga. Ah, Massimo Figlioli. un applauso subito. E chi è questo ragazzo? Lo conoscete? Un tuo amico. Quello è il miglior DJ del passato. Aspetta, Maurizio Russo anche. Anche Maurizio Russo. Un applauso anche a Maurizio Russo. Derubato. Il denubato. E poi tra l'altro un ragazzo di cui non faccio nomi, Tostapane, mi ha detto che poi è tornato a Bologna. Non è un nome Tostapane, quindi Maurizio Russo e Massimo Figlioli, quindi benissimo ragazzi, grazie. Vi stavo riprendo il discorso di prima. Ci sono, a proposito della pena di morte eccetera, due opinioni particolarmente discostate tra di loro, e sono le seguenti. Bartolamico che dice: scusate la cattiveria, ma per tutti quei farabutti ci vorrebbe la sedia elettrica, li arrostiamo e via. E poi c'è Picchio che dice: in Italia la pena di morte e i lavori forzati sono incostituzionali, e la Costituzione che vieta, perché il carcere è rieducativo. Quindi voi che cosa, quale pensate che sia corretto? La Costituzione oppure Bartolomeo dice arrosto di prigionieri? Guarda, arrosto di prigionieri non credo che sia il massimo, perché si tratta appunto di pena di morte. Quindi opto per l'idea dell'altro, non mi ricordo come si chiama. Di chi? C'è Bartolo e Picchio. Di Picchio, ecco. Picchio. Quindi Salvatore, tu cosa pensi, compagno? Abbastanza titubante sulla questione. Come secondo te il carcere deve essere rieducativo o punitivo? Lo sai qual è? Cioè, non ho sbagliata, la cosa brutta è che noi li manteniamo a questi pezzi di merda, capito? E devono a questi fare pezzi di merda, noi gli diamo il pezzo di pane ogni pezzo giorno, la merda. Televisione, un tetto, ma che cazzo dici? Dovremmo lasciarli tipo in mezzo a una foresta lì a morire, non lo so, se la vedono loro. E poi allo stato brado, fanno schifo, ma che cazzo è? Abbiamo opinioni anche in studio, opinioni particolarmente radicali, ovviamente noi. Guarda, diamo voce a tutti. Picchio, ascolta, vediamo, tu che hai visto Dexter e sai, sì, bene com'è tutta la storia. Ah, dici sarebbe meglio punirli alla Dexter? Io seguendo il codice che utilizza Dexter, sì, poi ve lo spiega chi è Dexter. Aspetta. Che cosa fa? Dexter è un telefilm americano fantastico. Il protagonista sostanzialmente è un serial killer, però uccide soltanto quelli che se lo meritano. Esatto. E io ne conosci? Lui dice, me l'accollo, cioè, e pensa che sia se lo meritano per me devono possono pagare. Possono morire. Comunque, cioè, c'era, se tu ti ricordi, una puntata di Dexter dove praticamente scoprivano che c'erano tutti questi corpi che erano criminali, e c'era la gente che la pensava come te, ovvero la punizione con la morte, diciamo, era pubblicamente accettata a furor di popolo. Già, cioè, tutti erano d'accordo. Sì, lui è il nostro eroe, ti ricordi? Ed è davvero una cosa scioccante. Ma nel senso che la gente pensa davvero che probabilmente, tipo, uccidere un'altra persona. Poi non lo so, compa, io personalmente la ritengo pesante. E non voglio il carcere rieducativo, voglio un carcere punitivo, per fare capire cosa vuol dire davvero lavorare. Non che noi ancora ne sappiamo qualcosa, non ci siamo spaccati la schiena come i nostri nonni e i nostri genitori ancora. Però fondamentalmente finora non abbiamo infranto nessuna legge, forse qualche piccola legge. Però diciamo non arriveremo mai non arriveremo mai ai lavori forzati o alla sedia elettrica, almeno spero, perché sarebbe bruttissimo. Però se un giorno so. Mi venisse a rompere i coglioni, non lo so. La sedia elettrica. Tu. Ah, dice è tutto anticostituzionale, anche togliere privilegi ai politici. Questa ha ragione. Dice: tu mi stai dicendo che è incostituzionale fare la pena di morte, però è incostituzionale anche diciamo togliere i privilegi ai politici. Quindi penso che abbia ragione. Sì, Marco, ho letto. Comunque, ce l'abbiamo pronta. Vi avviso che i mi piace sulla pagina di Bazinga sono 131, perché si aggiunge anche Pietro Cavasino. Oh, Pietro Cavasino. E domani si aggiungeranno anche altre persone, ve lo assicuro. Lo stiamo facendo grazie. Il botto. Stiamo facendo il botto. Poco fa, ragazzi, prima di mandare questa canzone e poi riprendiamo da questo discorso, un ragazzo che voi tutti conoscete, Gabriele lo sa imitare anche bene, Vobetto Zalode, Vobetto, mi ha detto, vabbè, ma quanto fa 27 più 1? E io gli ho detto 30. Io ho detto 30, e io fa 30. No, perché forza Inter, non è vero che avete 30 scudetti, sono 28. E lui si lamenta perché da Interista giustamente un pochettino è stupido. Ma oggi ho sentito pure la notizia che Zeman, un allenatore che ha sempre odiato la Juve, dice: perché parlate di 28-30? Gli scudetti della Juve saranno 22-23 massimo. Cioè, voi capite quest'uomo quanto sia fastidioso? Io penso che moltissime persone che tra l'altro ci ascoltano sono juventine si prepareranno per organizzare, diciamo, un linciaggio generale. Quindi Marco, qual era la canzone che avevi messo qui in... Non ne ho idea, me l'hanno consigliata. Vediamo. Ma se aspetta, comunque devo anche salutare un altro amico che si aggiunge alla postazione dove saranno 6 o 7, credo che ci stiano ascoltando. Interessante, grazie. Ed è Antonio Ferracane. Antonio Ferracane. Il grande Antonio Ferracane, tutti devono lo conoscere. E lo salutiamo. Io comunque volevo... è... un VIP. Famosissimo, un VIP. Quindi dedichiamo questa canzone di qui. La dedichiamo ad Antonio Ferracane. Emi invece ha collegato il PC alle casse che ha nel soggiorno e l'è messa a tutto volume ed è come se noi fossimo con lei, la stiamo tenendo compagnia. Brava, un bacio ad Emi. Un bacio. Anche due, va benissimo. Quindi mandiamo questa canzone di qui. Mio Dio, che cos'è? È la quinta di Beethoven. Vai, lascia. Spera, vediamo. Bella! Eccoci, rieccoci su Bazinga. Un saluto a Nicola Ganci che è venuto adesso, è arrivato adesso ed è sempre contento come sempre. Guardate come salta Nicola Ganci. Saltella nella stanza insonorizzata, non so cosa stia facendo. Perché saltella il suono dei nostri hai visto, è bellissimo. Facendo il simbolo delle corna, che vuol dire I love you, vieni qua a salutare. Vieni a salutare vergogna. No, va bene. Non gli va, vabbè. Va bene lo stesso, va benissimo. Quindi la canzone è quella che abbiamo mandato poco fa, era Walter Murphy e The Big Apple Band, Fifth of Beethoven. Quindi la quinta di Beethoven. Io poco fa forse ho detto la settima. Ecco, lo strano ritorno è passato. Ho detto la settima o sbaglio? Non me la ricordo. Ho detto chissà per quell'oscuro motivo. Allora, insomma, ragazzi, avevamo parlato, insomma, dell'apparenza. Abbiamo parlato anche delle prigioni. Cosa ne pensano i nostri ascoltatori delle prigioni? E poi l'ultimo argomento, cioè un altro argomento di cui stavamo chiacchierando in studio prima di rientrare dalla musica. Le prigioni femminili. No, non le prigioni. Che erano... cosa ci può aspettare nelle prigioni femminili? Gli incontri quelli coniugali con le prigioni. Ti ricordi Quagmire? Ad ora fatemi farmi una donna in gattabuia. Righi era fortissimo, ma ora la cerco, questo qui la rimetto. Il 21 maggio Nuccio VIP sarà a Bologna alla Trash. Alla mi Trash. Comunicano. Il mio Nuccio VIP, perché abbiamo fatto Noi siamo anche noi. Bello, avanti. Bellissimo, favoloso. Gioia del favello. No, quindi Nuccio VIP a Bologna. Ma Nuccio VIP cosa fa? Oltre a fare lo stupido, che cosa può Ci fare? Ci sono video su YouTube prima che facesse le Iene. E che faceva? Fantastico. Niente, così. Faceva ridere. Faceva ridere. Si guadagna da vivere facendo il pirla, diciamo. Pirla. Cosa fa? Fatemi sentire. Uno, due. Che il cosa? Pirla. Ok. Un bel romanticissimo. Tamburello. Tamburello. Tamburello. Tamburello. Sabato Marello. Gioia, bellissimo, favoloso, gioia. Quindi Nuccio VIP non fa solo lo stupido che simula atti sessuali con i VIP, va anche alle trash. A Bologna, così. Quindi è simpaticissimo Nuccio VIP. Sa quanto l'hanno pagato. Ma non lo so. E saluto anche Niccolò Milazzo, un bolognese doc. Ciao Niccolò. No, non è Niccolò, è Niccolò. Ciao Niccolò. Picciò, ho una canzone qua sotto. Quindi sono otto che ci ascoltano. Favoloso. Favoloso, 8C. Favoloso. 8C. E sono 8 a Bologna. 8 soli con un PC. Ah, una a Parma, 8 a Bologna e una a Parma. 8 una Bologna. Cosa del genere. Ma tipo che facciamo votazioni, chi porta più ascoltatori vince questa sera. Vinto io, mi sa. Ah, mi sa tanto di sì. Mi sa che è vinto. Mandiamo questa canzone, PC. Fight, fight, fight, fight. Anche se in studio è piaciuta Dreaming Day System, ci ha fatto calare a picco gli ascoltatori, come Marco mi sottolineava, dalla curva, vero Marco? Sì. Quindi ho in bocca qualcosa di appiccicoso e bruttissimo come i pistacchi. Ma chi li ha portati? No, i pistacchi erano. Tu li hai portati? Ne ho portati cetti. Mandorle caramellate. Mandorle caramellate. Io sento in bocca pistacchio. Allora sai che cosa ho mangiato, piccio? Non ne ho più pallida idea. Me l'avete passato mentre ero cieco, sordo e muto, che stavo parlando, insomma. Quindi Gabriele, un'altra cosa di cui volevamo parlare era i classici porno. Ah ragazzi, sapete cosa sono i classici porno? I classici porno. Chi ci ascolta da Twitter lo sa già. E buonasera Ninni, buonasera, benvenuta Ninni. In studio, un applauso a Ninni. Hai visto chi che ci criticava che non c'erano ragazze, adesso ce ne sono due, tre addirittura. Pure quattro. Abbiamo anche Rosy. Abbiamo quattro ragazze. Quattro ragazze in studio, quindi stiamo facendo. Mi lasciate. Nicola ha proposto di scendere tutti fuori e lasciarci in pace. A noi piace avere pubblico in studio, è una cosa romanticissima. L'unica cosa che distrugge l'entusiasmo è questa campana fastidiosissima. Piccio, non lo so. Marco, tu avevi altri saluti da fare? Oddio, no, mi sa. No, ho finito. Salutato tutti. Cosa devi fare? Ah sì, vado. Praticamente che stavo dicendo? Dovevamo mandare un'altra canzone, così ora ci... E questa qui la dedico a una mia amica che ci sta ascoltando sicuramente. Ah! fianco a fianco. Na na na na na. Na na na na na na na. Sembrava che non venisse più. E sei entrata anche. Sei entrata, Gabriele, in tempo esatto. Perché mi chiamano sempre nei momenti opportuni? Ah, io so chi è, quindi vado ad aprire. Voi aspettatemi qua e continuate senza di me. Ok, continuiamo la nostra puntata. Stavamo parlando. Ma sotto sei, compa? Stavamo parlando. Sei praticamente. Praticamente, allora, mio fratello sta parlando a telefono con Calogero Calandra, che è appena arrivato. Calogero Alogeno, noi lo chiamiamo. Il nostro elettricista di fiducia che ci mette le lampadine alogene. Tuttavia, Citarrella. Il più grande chitarrista, secondo me, del quartiere. Sicuramente di Memphis, secondo me, è il più grande chitarrista. Palermo, anche forse. No, non saprei. Non sappiamo, non sappiamo. Nicola, tu lo conosci Calogero Calandra, il chitarrista dei Five Drops, detto Alogeno? No, adesso lo conoscerai, è un grandissimo chitarrista. Io so che tu ami la chitarra, anche a me piace la chitarra. Eh? Sì, vieni a dirlo qui, perché era una cosa simpatica. Ha detto la ama, per quale motivo la ami? Perché anche il buco. Ah, ecco, un applauso, premi il numero uno. No, non era quello. Che cosa stai facendo? Io non ho fatto ecco, niente, vedete, nemmeno so dove sono. Ripremilo. E io riesco a fare tutto. Ecco, vediamo alla regia Salvatore, premi stop. Stop. Alla regia Salvatore fa così. Sì, perché praticamente vogliamo inserire un nuovo assolo in tutto quello. Guarda, ne hai messi 8 insieme, non so per quale motivo. Adesso si è chiuso tutto, si è chiusa anche la radio, nessuno ci sta ascoltando. No, sto scherzando, non è vero, ragazzi. Comunque, stavamo parlando. Di cosa stavamo parlando, ragazzi? I classici porno. No. È un top trend su Twitter, no, di cui molti parlano. Cosa? No, che c'entra? Il problema è, compa, che tutti dicono che i maschi sono maniaci, ma intanto sono le femmine che si prostituiscono. Esatto. Giusto? Esatto. Quindi sono loro che fanno schifo, no noi. I maschi non sarebbero maniaci se... Noi siamo maniaci, ok, però ci sono le femmine che giustamente... Non sarebbero maniaci se... Sono loro che danno, cioè che fanno questo lavoro e ci danno... Guardate che c'è qui! Occhio! Portato! Ha portato i vaccini! Abbiamo qui... L'onore di avere Calogero Calandra. Parla, adesso, parla. Un saluto a tutti da Menfi. Un applauso grandissimo. Soprattutto da ricordare quel bellissimo sole che c'è nell'entrata. L'unica cosa che ti ricordi di Menfi. Di Menfi, l'unica cosa che ho visto, perché non ci sono mai andato realmente. Quindi mentre ci organizziamo qua in studio, scusate, non so se mi sentite forse lontano. No, vedo mangiare una. Sì, ora le difatti come dicevo questo. Questo è uno dei Citarrellas. Sì, è l'ultimo. Ora siamo al completo. Siamo al completo su Radio Sisma, ragazzi. Non l'avrei mai immaginato stamattina quando mi sono alzato di avere qui al completo tutti i miei coinquilini. Fantastico, ragazzi. Quindi, fantastico. Ragazzi, io cerco una bella canzone che è qua nella mia raccolta personale. E la dedichiamo soprattutto alle signorine. E la dedichiamo alle signorine. E la dedichiamo anche a Calogero, che è qui con noi. Wow. Ed è un live. Alzato l'unico che non dovevi alzare. Mi ho cominciato malissimo. No, hai fatto bene perché Gabriele non l'ha fatto. Adesso dobbiamo farvi sentire il ragazzo che è appena arrivato. Vediamo se si sente. Oh, è fantastica, ragazzi. Adesso minor swing. Little Wing, scusa. Little Wing, scusa. Little Wing, scusa. Impossibile. Dai, ce la fai. Non ci sono parole. Ah, ragazzi, non ci sono parole. non ci sono parole. Per dice. Questo pezzo non allora, ci praticamente sono Calogero è un ragazzo che non parla tanto, però suona. Quindi è piuttosto che suona. Noi parliamo quando dobbiamo chiedere quando dobbiamo chiedere un'opinione a Calogero. Calogero ci risponde con una canzone di Jimi Hendrix. Tipo Calogero, cosa ne pensi del non lo so, della globalizzazione, dello sfruttamento del terzo mondo? Questa è la risposta. Non so cosa voglio dire in italiano corrente, schitta però. Ma è sincera. Ma... Ah, perfetto. Praticamente traduco, ha detto fatevi i cazzi vostri, questo quello che voglio. Piccio, non so se vi accorgete, stiamo parlando con una chitarra. Questo qui è l'effetto dei Pink Floyd, che vi invitano a parlare con le chitarre sedute alla vostra sinistra. Come ma noi non ci facciamo di LSD, però. No, assolutamente. Ma lo sai che Dark Side of the Moon? No, mio amico vuole sapere se dalle vostre parti si usa dire sciarri a battaglia o sciarri a chitarra. Sciarri a battaglia, culo che t'abballa. Sciarri a chitarra, sciarri a chitarra, o culo che t'abballa. Passa l'elefante e te cala le mutande. Che cosa brutta. Quindi è sciarri a chitarra. Sciarri a chitarra. No, no, sciarri a chitarra. Da noi è sciarri a battaglia. Sciarri a battaglia. Però poi è uguale. Io una volta, compa, con le sciarrie da bambino ho fatto tipo... Mi sono messo a piangere, compa. Una volta un mio amico mi ha detto che mi dava il passaggio fino a casa. Dice, se tu vuoi il passaggio fino a casa, diciamo, devi fare questa cosa. Non mi ricordo, tipo, dovevo dargli delle figurine, una cosa, compa. Io ho detto, tipo, no, non te le do. Lui mi fa, allora sciarria. E, no, e io, compa, avevo una paura fottuta di rimanere alle scuole. In secondo anno è un trauma che mi ha segnato. E da allora ogni volta che sento sciarria a battaglia... il cuore mi palpita non poco, io dico. Dai, Calogero, faccio un altro pezzo. Va benissimo. È timido, fatelo scaldare. Facciamo scaldare Calogero mentre mandiamo la canzone. Un applauso. Un applauso per Calogero. Grandissimo! Dai che l'abbiamo casato, forza. 1, 2, 3 stelle. Compa, te lo prepari mentre mandiamo una canzone che presenta Salvatore. Compa, quella là dei Fugees, qual è? Sì, dedicata alle signorine. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and make you want me. Now that I escape, sleep, walk, awake. Yeah. Those who correlate know the world ain't cake. Jail bars ain't golden gates. Those who fake, they break. When they meet their 400-pound mate, if I could rule the world, everyone would have a gun in the ghetto, of course. When get the up and on their horse. I kick around drinking moonshine. I pour a sip on the concrete for the deceased. But no, don't weep. Why Clef's in a state of sleep, thinking about the robbery that I did last week. Money in the bag, banker look like a drag. I wanna play with pelicans from here to Baghdad. Gun blast, think fast, I think I'm hit. My girl pinched my hips to see if I still exist. I think not, I'll send a letter to my friends. A born again hooligan, only to be king again. Ready or not, here I come, you can't hide. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, here I come. I play my enemies like a game of chess where I rest. No stress if you don't smoke cess. Less, I must confess, my destiny's manifest. In some Gore-Tex and sweats, I make tracks like I'm homeless. Rap orgies with Borgie and Bess. Capture your bounty like Elliot Ness. Yes, bless you if you represent the fool. But I hex you with some witch's brew if you do do. Voodoo, I could do what you do. Easy. Believe me, frontin' niggas give me heebie-jeebies. So why you imitating Al Capone? I be needing some. And defecating on your microphone. Ready or not, here I come. You can't hide. Gonna find you and take it slowly. You can't run away from these stars I got. Oh baby, hey baby, cause I got a lot. Oh yeah. Baby, you can't hide. hide from the black old zone. Ready or not, refugees taking over. The Buffalo soldiers, dread like Rasta. On the 12th hour, fly by in my bomber. Crews run for cover, now they under pushing up flowers. Super fly, true lies do or die. Toss me high, only puff fly with my crew from like high. I refugee from Guantanamo Bay. That's around the border like I'm Cassius Clay. Ready or not, yeah. Here I come. You can't hide. Yo, nobody. Gonna find you and take it slowly. Ready or not, yeah. Here I come. Salvatore, ritorniamo in studio. Che cosa vuol dire per te questo pezzo, compa? Questo pezzo fa parte della mia storia, alla fine. E perché, compa? Sì, perché so che alla fine... Aspetta, appoggialo un po' così. A pochi ascoltatori di questa sera piacerà molto questo piacerà pezzo. Piacerà o quantomeno lo conosceranno, perché io davvero non li avevo mai sentiti i Fugees. Tipo, perché cosa sono famosi, compa? È proprio tipo zero preciso. Boh, non lo so tanto, però alla fine a me questa canzone piace, quindi l'ho ascoltata. Quindi ti interessa nel gruppo più della canzone, questo capita spesso anche a me, però diciamo, i Fugees in generale non è un gruppo che ho mai sentito, compa, neanche nominare praticamente. Più che altro l'ho conosciuta tramite una, diciamo, un remix drum and bass di questa canzone. Ah, drum and bass. Poco fa mi chiedevano un pezzo drum and bass, ora glielo mandiamo. Sì, Equinox, non so se la conoscete. Ma possiamo sempre... Ora vediamo di recuperarlo. Ora diamo voce a Calogero, che è venuto. Gabriele sta picchiando. Dategli voce alla chitarra. Ah, vediamo, sta provando col microfono per vedere. Ti alzo l'uno. Come si suol dire, datemi una chitarra e vi cambierò il mondo. Ci voleva il mio accompagnamento. Minchia, compà. Ah, ragazzi, però siamo. Picciotti, abbiamo un documento a voce, Calogero, su questa serata che è cominciata tardi per te. Sono senza parole. Sono senza parole. E infatti avanti, dai, non puoi cercare mettere. Qui. No, dai. Sì. Sperare che domani arrivi in fretta. No, ma fagli la colonna sonora. Accompagna. Ma come fa a accompagnarlo se non lo sente? Ah, è vero, scusa. Pensavo aveste microfonato e cuffiato Calogero, invece non è così. Ho sbagliato, Picchio, quella di prima che hai detto tu non è drum and bass, è dubstep. Ah, dubstep. È grave. No, no, non l'ho detto, io l'ho detto lui drum and bass. Sì. Ha sbagliato Salvatore. No, io non sbaglio mai, compa, questo non me lo puoi dire, voglio dire. Picciotti, in questo momento di pausa, mentre Gabriele smette di picchiare il microfono, mando un pezzo che è questo. Via, ma da quando è qua, no, sola che hai leccato tutte le ferite. Lo sai da me, tu non puoi proprio andare via. Via le mani dagli occhi, che senso ha se poi ti tocchi i pensieri ancora lontani e vai via. Via le mani dagli occhi, che senso ha se poi mi blocchi le mani e rimandi a domani, domani, domani. Toccami le mani, toccami le mani, amore, toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, toccami le mani, vai via. Via le mani, via gli occhi, che senso ha se poi ti tocchi i pensieri ancora lontani e vai via. Via le mani, via gli occhi, senso ha se poi mi blocchi le mani e rimandi a domani, domani, domani, domani, domani, domani, domani, domani, domani. Ti prego toccami le mani, toccami le mani. Io ragazzi non ricordavo che i Negramaro spaccassero così tanto in qualche fantastici canzone. Sono bellissimi, fantastici. Che poi tipo sono uno dei pochi gruppi italiani che cantano stringendosi le palle per fare il falsetto. Fanno un falsetto diciamo pesantuccio abbastanza, esatto. Gabriele, tu lo sapevi fare bene. Fatemi una canzone tre con Calogero in falsetto. Solo tre minuti per parlarmi. Parlarti di me, di me, di me. E poi come fa il ritornello? Come fa il ritornello? Sai, bianco, blu, gelo. Così, fa così. Come neve fredda scenderei a coprir tutto quello che sei. Io ho una voce secchissima. Nicola saluta lo studio ancora una volta. I testi dei Negramaro fanno cagare, questo è anche vero. Lo sapevamo. Però compa, di musica spaccano, io intendo, a me piace il sound. A te fanno schifo. Compa, vieni qua, compa, sei maestro di musica. Quando uno... bravi, però i testi fanno schifo, i testi sono grande parte della canzone. Toccami le mani, senso non... Levami le mani dagli occhi. Questo, compa, toccami fare una... le mani, toccami le mani. Toccami le mani, amore. Però alla fine... toccami le mani. Io piccio, io veramente non l'ho mai letto. Ora devo in un certo qual modo. Gabriele, la smetti, cazzo. Sei fastidiosissimo. Dico, vai devo. Via. Va bene. Fa così semplice. Si infila un dito in culo per fare il fa. Si fa. Ogni volta che fa. Si infila un dito nel culo. Piccio, ho trovato una canzone bellissima che volevo fare sentire a Calogero oggi pomeriggio. E ti volevo fare sentire. Marrugio in culo. Ah, okay, questo il è mocio. Il commento di Calogero, con la chitarra in mano e ha detto solamente le parole no, sì e un marrugio nel culo. Va bene, va bene. Come va, Calò, ascolta questa canzone e dimmi poi che ne pensi. Girl is on my mind. E ora scoprirete, occhio, e ora scoprirete perché Calogero è il più grande chitarrista di tutta Via Citarrella. Perché ha sentito per la prima volta questa canzone e adesso ce la fa tutta. Questo no, è anche no. Ci sono solo Gabriele e Salvo. Non riuscirà a rifarla su tutta uguale. Devi farla tutta uguale, compa, da zero, vai. Posso dire che una chitarra e una batteria spaccano di brutto. Poco fa mi criticavate no. In Negramaro, adesso è Black Keys, nessuno ha il coraggio di le mani di dagli occhi, occhi. Che senza se poi mi tocchi il culo. Piccio, guardando in questo quadretto splendido, sai cosa mi viene in mente? Che ogni volta che abbiamo ospiti in studio, facciamo così della nostra scaletta. L'ha già fatto. Non abbiamo più argomenti. Ed è una cosa bella, perché Improvvisiamo tutto. Dato all'improvvisazione. Ed è una cosa anche quindi romantica. Adesso intoneremo tutti insieme una canzone famosa dei Citarrellas. Che tu hai sentito magari nei Blues Brothers. Sì. E ci sono soltanto due frasi da dire. E quali sono? Everybody needs somebody. Vai. Giusto? Vai. Aumentate il microfono. Ed è questo. Dammi l'attacco che sono lentissimo. Aspetta, aspetta. Conviene invece che ti avvicini. Da qua c'ho il microfono. Dategli un plettro. Non c'è un plettro. Pure le trombe. Everybody needs somebody. Everybody needs somebody. Somewhere alone. I get you. Qual è il testo? I need you or I got you? Everybody need somebody. Everybody need somebody to love. Someone love. I need you. E poi c'è la seconda parte che cambia. Come metti fa? Metti questa. Na. Dobbiamo cantare questo, perciò cioè cantiamo il testo dei Backstreet Boys. No. Adesso è everybody rock your body. Everybody rock your body. Questo è il testo dei Boys. Ma sai qual è questa canzone? Questa canzone dei Backstreet Boys è quella che fa Everybody rock your body. Che brutto, ragazzi, potete notare che il tasso alcolico è aumentato. Adesso abbiamo deciso di farvi una canzone, ve la cantiamo noi, però. Ma cioè, non ve la vogliamo far ascoltare. Ti sei messo d'accordo solo con te stesso, perché non ne so nulla di questa canzone. Che canzone è? Qual è? Tu me l'hai detto. Qual è la canzone? Che tu la sai suonare bene e noi la sappiamo cantare, che la conosciamo. Qual è? Quale stai parlando? Qual è? Sì, io ve l'ho detto. Quella di oggi. Quella che sappiamo fare noi. Che l'abbiamo provato una volta. No, non la sappiamo. No, non la sappiamo. Ma qual era, piccio? Niente. The first girl. No, ma non la sappiamo. Non la sappiamo. Cioè, non la sappiamo, però possiamo. Non puoi fare l'anteprima di una canzone che ancora non esiste. Guarda, senti, ce lo rubano, compa. No, solo. Poi è un plagio. Fai solo il riff, compa. Com'è il riff? Questo qui è il nostro pezzo, ragazzi. Ancora il titolo è in anteprima, ragazzi, non lo possiamo. Il testo l'abbiamo già cominciato. I Citarrellas vi faranno sapere di cosa si tratta. Molto presto. Comunque, mi hanno mandato due messaggi su Twitter che avevo chiuso e a cui non avevo risposto. E sono questi. Picchio, per riguardo alle ragazze che erano venute a trovarci poco fa, dice: ma le ragazze sono vere oppure ve le siete assemblate voi in laboratorio? Quindi lui non crede che una trasmissione si chiami Bazinga possa attirare delle ragazze da noi. Invece ti devo assolutamente dire che ti sbagli di grosso, perché la radio, in radio si cucca, compa, te lo posso assicurare. Ragazzi, cosa confabulate alle mie spalle che io non mi posso girare? Stiamo sparlando di te. Ci stiamo concordando su quale canzone cantare, perché ormai, come si suol dire, giornata rutta rompela tutta. Siccome questa puntata di Bazinga è andata a finire Bazinga, il tasso alcolemico è pazzo, adesso facciamo... Che cosa ci dice Domenico? Ci avvicina al microfono, tranquillo, mi sentono. Adesso sì, faremo un pezzo. Non sappiamo ancora quale. Intanto, mentre noi ci pensiamo, Calogero ci fa Yesterday. Ma perché lo prendi così a sprovvisto sempre? Sei un bastardo. Ma sempre se non ricordo, aspetta. Tranquillo. Guarda, something wrong now I long for yesterday. Yesterday. È finita, ragazzi. Ragazzi, il nostro inglese è perfetto. Perfetto, perfettissimo. Ci saluta Stefania Capraro. Stefania che odia Salvatore dal profondo del cuore. Grazie Stefania, anche io ti odio. Un'altra grandissima frequentatrice del Citarella House. E quindi sa benissimo di cosa stiamo parlando. Bello, bellissimo, favoloso, ragazzi. Ai ai ai ai. Allora, ragazzi, io qui c'ho una canzone pronta. È una canzone un po' vecchia, un po' stupida, un po' commerciale, ma a me piace. La mandiamo così ci riorganizziamo qua, che stiamo andando davvero a finire a feto. Una vaica buccata. America. siamo ritornati in studio. Questa volta sono riuscito a beccarlo perfetto. Non so se avete notato, questa è la mia grande abilità che piano piano sto conquistando. Mi è arrivata una notizia e mi dicono troppo importante, ed è questa. Gabriele, te la passo? Contattami su Facebook, gà, che te la passo, te la scrivo. Gabriele? Sì, sono qui, ma non ti vedo. Non mi vedi? Sono online eppure, te lo giuro. Aspetta, aspetta che la leggi tu, che hai la voce più figa. Ti ho trovato, eccoti qua. Non mi arriva nulla. Ah, ecco, ecco, adesso mi è arrivato. Di che cosa si tratta? Di che cosa si tratta? Si lamenta per il computer difettoso, il tecnico informato spara e lo uccide, il tecnico informatico. Quindi possiamo dire che Vincenzo si ritrova benissimo in questa situazione. Mi sto preoccupando, scusami Marco se non ti ho portato. Una lite per futili motivi si è trasformata in tragedia. La vittima è un fabbro 42enne, arrestata anche una donna. Quell'offesa sulle sue capacità di informatico non gli era andata giù, così come quell'accusa sul cattivo funzionamento di quel computer portatile che lui aveva assemblato. Ci sarebbero futili motivi, come sostengono gli inquirenti, dietro l'omicidio di Antonio Caroppa, 42 anni, fabbro di Paderno Dadda. Nel Lecchese, che voleva acquistare un nuovo PC dal tecnico comasco, che si è trasformato in assassino e lo ha freddato nel garage di casa con un colpo di pistola. Wow. Quindi tu immaginati questa cosa: uno che sta facendo il suo lavoro, diciamo un fabbro, il fabbro tipo si lamenta col tecnico informatico, quello impazzisce e lo uccide. Quindi... è la rabbia degli studenti di ingegneria informatica. Esatto, Picchio PC ha scritto questa notizia linkandola dicendo notizia importantissima, quindi occhio ai tecnici informatici, quindi anch'io sarò non tecnico, ma sono nel campo dell'informatica, quindi non fatemi incazzare, perché se no posso, non so che cosa vi posso combinare. Forse era questo il messaggio che ci voleva lanciare Picchio PC praticamente. Ragazzi, sì, perché mi lasciate sempre volevo così? Dire che c'è Stefania che dice salvo a cuccia, salvo a cuccia, dice le mie povere orecchie, basta, vi prego, no, vi prego, basta. Ma per quelle canzoni da cosa ti riferisci? Alla canzone che stavo cantando prima forse? Oppure la canzone dei Green Ieri, Day? Tutti i miei problemi sembravano allontanarsi, adesso sembrano quasi che stiano di casa qui. Oh, ma credo in ieri. Ah, yesterday. È una traduzione dal cazzo. C'erano quelle di Elio e Storie Tese. Oh, piccio, c'è un video di Elio e Storie Tese. Fatemelo cercare, voi mentre parlate vi faccio vedere questo video. Elio. La cosa importante è sempre quella. I campioni. Sì, ma perciò, ragazzi. È quello perciò che ci aspettavo alla fine. Che cosa? Di cosa stai parlando? Io trovo alla fine Lucio e citofono. Hanno suonato. Qualcuno ha suonato al citofono. Se qualcuno va a aprire, ci sono anche le campane. Potete sentire, è spettacolare, proprio, ragazzi. Le campane qui. E abbiamo delle persone. Chi è? È arrivata la mia ragazza di nuovo. E per adesso fa. Eccola qua, Gabby. L'ho trovato. Finale. Va bene? Senti. Ho pagato i miei debiti. A più riprese. Ho fatto la mia frase. Traduzione letterale. Non ho commesso nessun crimine. Ed errori difettosi. Ho fatto alcuni. Ho fatto la mia gara e dei calci a parte della sabbia nella mia faccia. Nella mia faccia. Oh, faccia. Siamo i campioni, i miei amici. Che dice vero questo? E ci conservare sulla lotta, lavorare all'estremità. Siamo i campioni, noi siamo. Poi andavano per te, però hai capito tipo il quanto può essere brutta una canzone inglese tradotta in italiano. No, avete visto? Tu che cosa traducevi? Yesterday, il testo sembrava bruttissimo. Ieri, tutti i miei problemi sembravano allontanarsi. Oddio, poi è troppo lungo. All my trouble seems far away. Bellissimo. No, piccio, l'amore non gioca così. Praticamente noi quella canzone che vi stavamo cantando poco fa, babbiando, facendo na na na, era un pezzo, diciamo, che stiamo scrivendo noi babbiando. La musica è meravigliosa, il testo un po' meno, stiamo un po' cazzeggiando, diciamo così. Avevo scritto questo testo in italiano ed era uno schifio pazzesco. Poi l'abbiamo tradotto in inglese e sembrava una canzone, non lo so, Marco, abbastanza orecchiabile. Perché Marco tra l'altro ha detto che non ci sono com'era, compa? Canzone inglese con un senso logico. Com'era la storia, compa? Cioè, non hanno. Tra strofa e strofa non è che sono legate. Legate, diciamo, parlano di una cosa, poi parlano di un'altra. Diciamo, un po' come le canzoni di Battiato, no? Le canzoni di Battiato. E che tu ci credo, no? Ne ho... gli alberghi a Tunisi nelle vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Fino a qua ci siamo. Giusto? Senti questa canzone, sentite però questo testo, Piccio. Senti. Di Battiato, Piccio, è una cosa allucinante ed è Shocking in My Town. Ragazzi, sentite il testo. Questa canzone mi mette un'ansia pazzesca. La notte non dormiva da bambina e faceva pipì nel letto quando sentiva Shocking in My Town. Cibernetici, signori degli anelli, orgoglio dei manicomi. Si scontrano tribù di suburbani, di aminoacidi. Sta facendo venire l'ansia a tutti questa cosa. C'è Salvatore che sta in uno stato comatoso con la schiuma che gli esce dalla bocca. Cioè, questo è l'effetto Battiato, come diceva Gabriele, compa, testi senza senso. Invece Salvatore, qual è il tuo testo preferito di una canzone, compa? No, aspetta, più vicino. Inglesi veramente pochi, ne so. Italiani chi, compa? Italiani. Ma un so merita nudo, compa, un piccolo braggio. Non c'è un piccolo nelle mie classifiche. Ah, ma va bene lo stesso. Ah, ci contatta ora su Twitter Marco Mele, dice: ogni venerdì mi fate sentire come a Notre Dame. Non so, per quello scuro motivo Notre Dame. Nel senso che siamo gobbi e quindi juventini? No, non ma tu però hai il tasto proprio dolente. Appena parlano di qualcosa che può richiamare anche lontanamente, fai come le donne, giri la frittata. Noi siamo abituati a vedere i film in bianco e nero. Ma credo che anche lui sia juventino. Con strisce tricolori, tra l'altro. Oriana, voleva dedicare questo piccolo pezzo di 3 minuti al suo ragazzo Nico. 3 minuti, solo 3 minuti. Non è quello, per fortuna. Ma ha detto che è un DJ bravo che ha la nostra età. Non so di chi, qua ne abbiamo tipo differenti. C'è da 16 a 23, quindi dobbiamo vedere qual è la nostra età. Sentiamo di cosa si tratta. E casomai te la censuro. Quindi, ansia, è davvero allucinante questo pezzo. Si chiama Equinox di Skrillex. Non so se è di Skrillex o degli Skrillex. Perché Oriana si è corretta. Diceva quello di cui parlava lui, il mio coetaneo. Era il. Non è un DJ, è un musicista produttore. Tipo, vuole fare il piccolo Jay-Z di Milano. Per andare ad ascoltare questo gruppo si pagava 40 euro. Io non so, sinceramente, se ci avessi tanto. 40 euro, non so voi, picciò, però diciamo fondamentalmente è un modo diverso di affrontare la musica, affrontare altre tipo di cose. Quindi facciamo che cosa, compa? Valerio Ferracane e Sebastiano Falca, altre tre persone. Quindi questa sera siamo ancora cresciuti ancora una volta. E questo è romanticissimo. Allora, 133 volte grazie. 133 volte grazie. Un applauso, ragazzi. Un applauso. Allora, ragazzi. Abbiamo parlato abbastanza diffusamente di argomenti strambi. Ci è venuto a trovare Calogero, che sicuramente, compa, tornerai, compa. Certo che tornerà, compa. L'ha promesso, finalmente. Guarda che questa puntata. Sto mettendo pure onda. Allora, per chi non lo sapesse, questa puntata è in diretta in questo momento, ma in realtà siamo l'11 maggio 2012, sono le 23:41, sì. Quindi tu che stai ascoltando la puntata che probabilmente... In podcast, sappi che... Stai parlando con una persona nel futuro. Esatto, stai parlando con una persona che ha già parlato, ha già detto la sua. Quindi non parlare con noi se vedi che è un podcast. Potete riascoltare sempre sul sito di Radio Sisma, nella sezione podcast... le puntate di Bazinga. Ah, hai visto? Tra l'altro mi segue un'altra persona, Implosione su Twitter. Quindi grazie, Implosione. E gli è stato linkato da Gianluigi Cioffi. Quindi insomma, un passaparola che funziona. Un passaparola che funziona. Insomma, grande, ragazzi. Ci piace tantissimo che ci continuate ad ascoltare. Anche se fondamentalmente questa sera, come avete sentito, ho strappato il programma. Perché quando abbiamo ospiti studio, finiamo sempre a parlare e fare altro. Tanto altro, diciamo. Perché qui le bottiglie di birra, ovviamente, ogni ospite deve portare due bottiglie di birra a testa. Pensate bene che siamo in questo momento 5, ovvero i coinquilini miei di Palermo. Due a testa sono 10, 10 per 5, perché ognuno di noi ne porta 10. Insomma, fatevi un conto. Questo è il volume di birra. E può parlare anche l'immondizia che domani si porteranno. Quindi, ragazzi, prima di decidere, adesso mandiamo una canzone e poi decidiamo assieme il pezzo. E salutiamo e chiudiamo. Intanto questo qui. Sempre lo sanno comunque per breve. Le donne lo sanno che cosa ci vuole, le donne che sanno da dove si viene e sanno per qualche motivo che basta vedere. E quelle che sanno spiegarti l'amore o provano strappartelo fuori, e quelle che mancano sanno mancare e fare più male. Possono ballare un po' di più, possono sentir girare la testa, possono forse rimangono pronte il tempo che gira. Le donne lo sanno com'è che son donne e sanno sia dove sia come sia quando, lo sanno da sempre di cosa stavamo parlando. E quelle che sanno spiegarti l'amore o provano almeno a strappartelo fuori, e quelle che mancano sanno mancare e fare più male. Vogliono ballare un poco di più, vogliono sentir girar la testa, vogliono sentire un po' di più, un po' di più. Possono ballare un po' di più, possono sentir girar la testa, possono sentire un po' di più, un po' di più. Che niente è perduto, che il cielo è leggero, però non è vuoto. Le donne lo sanno, le donne l'han sempre saputo. Ho tagliato il pezzo finale, perciò qualcuno mi potrebbe pure pestare. Era il pezzo più bello. L'ho Abbiamo rimesso sempre le campane, cioè, ci fanno compagnia. Quindi Marco, che cosa avevi da dire per chiudere? Ho appena visto che anche Francesco Falco ci ha ascoltato, perché ha messo mi piace su... Quindi 134 likes. Hai visto che bello. English. Fantastico, English. Fantastico. Fantastico, bello, gioia, troppo bello. Bello, bellissimo, favoloso. Quindi ragazzi, siamo in chiusura, sono meno un quarto. Domani io e mio fratello partiremo. I ragazzi ci rivedremo lunedì. Con voi ci rivedremo il prossimo venerdì, probabilmente, chi lo sa. Voi continuate, stay tuned on Radio Sisma. Adesso i saluti, passo Marco la palla. Stavo dicendo, vai. Ringrazio tutti i miei amici che mi hanno ascoltato e tutti i nostri ascoltatori in generale. È stato un piacere essere qui, mi sono divertito e alla prossima. Lo dobbiamo rifare assolutamente. La prossima, grazie. Ci sarà e i Citarellas saranno qui pronti con la canzone finita. Con la canzone, esatto, nostra, esatto. Pronta, finita. E sapremo tutti a memoria la canzone. Faremo un coro a cappella. Questa canzone la canteremo benissimo e faremo un sacco di soldi. Io voglio ringraziare voi che siete venuti qui a trovarci. Non credevo veramente stamattina, svegliandomi, che potesse accadere, ma che stasera voi foste qui, quindi è questo il ringraziamento che voglio fare. E noi fare. Ringraziamo voi per averci ospitato, ma come continueremo a rivederci perché abitiamo a Sardegna. Cioè, purtroppo, che per fortuna, quasi che non ci salutiamo per strada perché ormai perché uno sa, ci annoia. Valentina Pipitone ha messo mi piace, Radio Sisma, stiamo crescendo e stiamo chiudendo proprio quando stiamo crescendo, è una cosa stranissima. E vi mandiamo la nostra ultima canzone. Vi mandiamo, aspetta, scelta dal nostro capo. Attaro. Un saluto. C'è Calogero che deve dire qualcosa. Vai Calogero. Saluto a tutti come avete già fatto voi, quindi oh. Basta dire questo. Va benissimo, compare Calogero. Un applauso. E chiudiamo. Speriamo che la tua promessa di ritornare sarà mantenuta. Certo. Perché ti dobbiamo, se no, dobbiamo venire a prendere. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Questa canzone è dedicata da Nico a Oriana. Buonanotte da Bazinga. Buonanotte. Ah.